insolso. Il mio esce 3 modulati con la potenza minima, misurato con Franco stasera, e 10 a potenza massima. Figurati, se io metto 10 nel mio, ti faccio schiattare le orecchie. Ah no. Io ti posso... Ah no, grazie. No, me lo dimentico di accordarti. Che fai adesso? Quattro. Scusa. Dimmi. Paolo. Dimmi, roba è. Però per il cazzo vuole affare? Ehi, se non piove domani sopra mi ripeto, roba, perché mi sembra, guarda, sto baracchino, poverino, tutto nudo, Tu non ti ha preso, mi sta attento. Roberto, dimmi a tu. Ma quel fondo grosso, quel quick filler, non lo fa le bombolette? No, sono quelli catalizzati quelle. Ho capito, ma si rompo, devo coprire, grazie. Se sta grazie troppo mi fai i succhetti leggeri, le giri alla nitro e poi le lo vedi. Mario Matteo semmi a strappare una Isaretto per non fare la voce alta. Perché lui è sempre studiato e poi c'ha la voce grossa, capito? È per quello che chiaramente riesce a trappare. Mario, dimmi. Ma che alimentatore che stai utilizzando tu? Quello della cottura composta da Marsi. Mario, c'è tutti positivi da 15 a più 35. Adesso fa questo. Vuol dire che sta andando bene. Sta andando bene questo apparato, anche se vecchio, però non mi sono ancora. Oh, Antonio. Dimmi, Luca. Aspetta, sicuramente io, come vedi il coso di spessore? Boh, la sei in corto. Allora, tu mi hai detto che arrivo 9:18, giusto? Tu confermi? Sì, modulante sì, se 9:18, se tutti potessi arrivare a 20, ma non lo so, Aspetta un attimo. Però quello che non riesco a capire è che non è che le ispezioni si vadano in corso così, le ispezioni possono durare anche 10 anni. No, vabbè, cosa c'entra, vuol dire che è stato fatto male, aspetta un attimo. No, a me male va bene, 9:45 qua. Mi sembra strano che praticamente c'ha problemi di ispezione lui, tutto lì. Sì, lo sto segnando uguale identico di Mario, fra. A formati siete precisi. Come stai volando? Io sono al monte, sono a casa di mamma, sono a sacco fuori, però non so questa ragazzina che volevo che ci faccia. Vediamo un po', dai, guarda bene, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E qua c'è Maria Luisa. Io non ho parlato. Quanto? Dimmi lui. Guarda, si è cambiato, si è proprio stesso. No, lui, non è cambiato niente, è sempre uguale, dai. Allora, questo non c'è niente. Ma quale problema c'hai, Luca? Di dispezione, cosa ricombinati? No, non devi fare affidamento su di me, perché io ho l'antenna al contrario, puntata al contrario, cioè messa al contrario di dove sei tu. Quindi chiaramente Mario lo dice meglio perché la mia antenna è di fronte a casa sua. E se la faccio al terrazzo, lo vedo dove abita lui. Invece a te non ti vedo perché sei dalla parte opposta. Non ti sento il tuo splatter, la subarra parasmiotas, le francos. Non so io, e tu per carità. Ciao, ma perché lo splatter a Luca quando sto parlando io? Con la splatter, non stavo parlando io, boh. Non è come ti sento perché è franco per splatter. Ah, no, non è bene. Ora lo splatter, boh. Che cucina per un bicchiere d'acqua, c'è cioè con la fredda. Non ho fatto a sbatterarti, boh, non ho capito. Ma veramente sì. Ma no. Fra, non è bere acqua, fra, se l'acqua ti fa crescere a rane. Oh, ma tu, non volevo dire quello, dove è puntato l'antenna, dove non è puntata. Volevo sapere se cambiava il segnale, tutto qua. Niente, non lo so, lava, cavallo. Da te roba è cambiato il segnale, sei proprio stesso. Non vado a pezzi, ma è a metà di un minuto. Ma cosa ho detto? L'ho sollevato di 10 cm, ma anch'io. Tu l'hai appoggiato al comodino. Ma ci ho messo una scatola sotto. La parata l'ho sollevato. Ma guarda che non dici la stessa. Eia! Ma che cosa del mega, Luca? Ah, chi mi ha cassato in vista triste, mi piace. Chi... No, non lo so, perché mi assillano, mi attaccavo la eccola, un biglietto non va bene, ma non lo so, non so questo qua. Vabbè, l'eccolo poi si è perso di rabbassi, non ce n'è più. Non so, ma... Sto sempre manovrando, capito? Sei immagini di Luca, una? Aspetta a vedere se riesco a sollevare un po'. Non mi sono lì, non mi Allora, sai tu cosa che fai, l'acqua? Adesso mi bocca a cuffelli. Qua, più forte è Franco per il momento. Non c'è. È come l'Antonio, ma lui già più forte. Ma che si cosa? Mario, scusa, Mario, stavo passando, Francesco. dal comune. E chi? No, lui ma lui arriva con la segnale fuori dal comune qua, quindi non può competere nessuno. Mario, dimmi Roberto. Però fai un passaggio su che ti confronto con Franco. Franco, sei d'accordo? No, no. Come ti passa Luca, Mario? Prova Franco su. No, qua fa ammazzare tutti tu. Prova la cipolla, 1, 2, 3, prova la cipolla. Sei quasi proprio su 30 qua. E io come sono? E prova? Natalino? Ma qual è Natalino? Ah, ma non è che hai stato Natalino, no, sbaglio sei proprio su 15. Gappa gappa. Io sono un malacchino misero, per carità. Che maria di potenza che ci ha messo, ma perché lo lasciate tutto come è? La maria della cosa è la Luca. Ah, io mi interveni un casino di Gesù Cristo, ovviamente. Cosa, usciamo con i vatti del malacchino? Otto vatti, caiati, dimmi tu. State facendo un casino di Gesù Cristo. Dimmi a tu, io. Che volevo dire la città della città Claudio. Lo so, ma non sto facendo, no. Franco, sto dicendo che sto facendo un malacchino misero, sto qua. Poi chi vuole capire, capisca. Ma per magia che fa vedere la mania della bottezza. A chi? Il giorno che mi girano le rondelle, mi procuro un lineare e io faccio schiattare. Ah, è l'unica sarebbe. Vabbè, proseguite, sono qua in ascolto. Vero Claudio, tu cosa ne dici? Ma si niente sì. Ah, Claudio. Maria. Segnando stai? Sì. Oh, non vi credo. Io posso andare un po', ma non lo faccio bene. Dimmi Maria Luce. Tu me lo dai. Va bene, quando mai passa a prenderlo. Niente, tu a proposito di urinare. Beh, guardate quell'alimentatore, non l'hai controllato. Ah tu, sparito. Sono imbruciato l'urinare. Cappa rocchero. E se vuole bere qualcosa, esce, ce la vola secca. Ma ti mi sei mangiato, Fran, la verità. Se guarda, ho mangiato tre pizze e vola secca, allucinante. Boom. Sono cosa che mi vendeva. Ma la putti che li ha presi? Ma erano salate, cosa sto bevendo l'acqua, allucinante, salate proprio, non ce n'è. Ma quale dei nipoti che ha preso? Quella. Buona le dito, ma sono buone, ma troppo affette, metto. Chi è che sta segnando? Chi è? Perché ti stavo accordando, Maria Luisa? Dai, scusami. Ma dimmi gli agguetti, Maria Luisa, malacchino. Quale di tanto hanno preso i gli agguetti? Sì, ma io sul dito dice meglio. Tanto va, per quel macchino ne prende, quanto è questo? Vedi tu. Non so cosa dirle. Ah, no, siccome sei detto, chi è che sta segnando? Come state segnando? Dicono anche a me che segno anch'io. Tanto io gli avevo comprato il laddu. Quanto volevo dire? Beh, vuole l'alimentatore controllato, vai. Oh Luca, non mi dico più, mi assusto. Allora la compagnia laddu, ma lì che sono contento. No, tu, buona sapidia. Un attimo mi sta chiamando, la bambina. Oh Luca, un attimo indietro per me. Scappa. Ma è vero, santa a ballare oggi. Domani cosa è? Come è martedì? Scappa. In chiesa? Cioè, all'oratorio? Scappa. Lui è salvatore. Quanti milioni si paga al mese? Solo. Se fanno arrombare ci vado pure io. Ma se fanno arrombare però, se no no. Se fanno arrombare, arrombami. Ammazza che te ne scende, ma è lui. Perché mi tratti male? Ma scusa, chi la rumba lo fatemi. Vabbè, si è preso male, ma si fa rombare, no? Se tu di dialetto la rumba, no? La rumba, sta già rombato, vedo. Che stiamo fermi, raga? male, lo smite in corto, gli alibi a bocco, mi sto malacchino. Io adesso qualcosa io dove malacchino, mamma, mi fai sei cillucci. Franco, mi, tu mi hai mamma da culo l'itta, che c'è qui lì. Cazzo, mi devo andare a Lugugio, Lo sapevo, è da fatti curimi. Poi non mi ricordo la macchina, un bel però, un bel. Oh, anche via Sassolli se sto entrando. Vabbè, allora magari niente a rumba già. Se la faccio a rumba cosa andrà a fare? Cosa? Metterci male a rumba. Ehi! No, c'è un angurino, una signorina. Rumba, boh. Ah, è pittina, boh. Cioè, non si può rumbare. Dai, ci me la fuma, va. Se no mi metto un vizio, mamma mia. Mamma non fu. Andiamo a piedi per la strada. I vini urbani di Berchini. Aria lui. E non lo sento. Non mi sbatterà. Cava. Ancora questi cibiglioni, ma è lui. Tutti spariti sono. Franco. Sono qua, Franco. Se tu non sbattere una vita, io sono qua. Ma che non al 20, eh? Al 20, a me non lo senti in Dio, tranquillo. Mi stanno accordando, non indagare. Sta cosa, uso 41. Ah no. Andiamo un po'. Facciamo un po' di appelli. Claudio. Claudio. Claudio non c'è più. Franco. Franco non c'è più. Mario. Mario non c'è più. Roberto. Sono rientrato adesso. Chi c'è Luca? Ehi, Roberto c'è. Antonio c'è. Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa. Prendi la panna per la visa. Sono col piccolo adesso, Luca. Come arrivo? Vai. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Ma il segnale c'è proprio lo stesso. Con i portatili, sono sempre con l'antenna grande però. Scarpa di erosmetro, no, arrivi sempre il segnale uguale, 9, 10, sì qua. Scarpa, gappa, chi c'è rimasto? Antonio c'è ancora. 9, 6. No, sono con il portatile adesso. 9, 6, sì. Sì, forse è meglio di prima a Budo. Io non so se ne sono cambiato molto da me, eh. Io non dico se ne avanza. Ti ascolto più chiaro però con questo, molto strano. Pensiero positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Oh yeah, speriamo domani non faccio acqua. Vabbè, così domani mattina, se mi viene bene, sai come prendo questa applica. Bello malattino che è, già messo un po' di zoma, proprio di affreddo. Te ne ho fatti i russi, bene qua. Ehi, stai sentendo i tappi, era fatti i dinni. Sono male, eh. Ho preso malattini russi, c'è il malattino rosso. Mamma, che è scritto Valentino sopra. Ti pongo la firma, Roberto Valentino. No, di pulire, Roberto Quadrato. Comunque Roberto, guarda, non ti offende, ma quello mi ha attivo che ti ha messo è proprio, guarda, brutto. Cercate un altro, più serio. Mi chiamo Roberto, poi se vai là, riconoscermi dall'altro Quadrato, non mi piace che ti nomignoli a me, Soldattino, Cirivalla, Cirivella, eccetera, eccetera, non mi piace. Cappa, fa passaggio Roberto, mi sono una stazionale, fa passaggio, guarda. E' giusto, me la correggi, ma nel stazionale che c'è davanti, ha fatto freddo. Ah, passaggio! 1, 2, 3, 30, 40, 50. Cazzo, una volta ci lascio. E c'è freddo, Luca, adesso me la devi regolare, abbassamone un pochettino, ok, l'accordatore. No, vai che mi sono arrivato. Oi, Antonio, hai già più striscio, Antonio, che? Okay. No, questa che... Ho fatto molto portato, è stato con il visore. Ai! Ho scurato la fine, scurato, ma seguito una massa. Io ieri l'ho fatto col dipolo, proprio l'ho spento, vedi messo. Tu non mi credi, però l'ho spento, tanto. E poi si è riacceso da solo. Lo facevo che era un po' più basso, non era per senso. E poi praticamente era fuori il dipolo, era fuori dalla finestra, non ho sentito io. Forse uno, due, tre. Un taglio bruciato, puh, si è scusato. Ma storia, meglio di spicchio, quanto è morto male. Bianco, per me vuole cambiare l'acqua al gabbiano. Questo non si sale guardando le vacche. Comunque ho notato adesso le stazionarie ce le ho un pochettino più alte. Forse perché c'è umidità 1,5, normale, da 1,2 a portarle a 1,5. Sì, vabbè, se sale anche 1,5, c'è fabbri. Ma quando inizia a fare 1,8, no, ma con considerando la giornata, è normale che aumentino o è solo l'impressione mia? No, è normale che aumentino, perché chiaramente è sicuro che ci sia caricato un po' di quante le sono state tanto, non è una affa che abbia fatto un po' di agnassa, è normale che salga, lo sempre. Cosa mi è successo stasera? Quando sono uscito dall'officina sono andato a staccare il ricevitore e ho preso il PL della multibanda, ma di bilardo è una cosa ma omicidiale. Perché la multibanda non è proprio circuitata e quindi ricaricano le trozzate. Quando mi sono comprato uno scaricatore di massa, i barilotti che si attaccano praticamente il PL dell'antenna, poi dall'altra parte l'altro PL con lo stretencino e c'è uno scaricatore da filo di ferro che va a massa. Ma se non hanno bisogno perché non sono in corso. Quindi sono pericolosissime per i fulmini quelle. È un po' pericolose. Tutte quante le antenne robe sono tutte, però quelle che non sono così certificate sono più pericolose. Chiaramente di fare, mettere il palo a terra, collegare il palo a terra o che cosa? Quindi il palo a terra o che compro lo scaricatore di massa, allora li vendeva, ma forse adesso ci sono venuti e comunque nel qualche catalogo ancora. Ma praticamente dei barilotti hanno un aggancio per un cavo a 2,5, la 4 di messa a terra. Tu colleghi l'antenna lì, esci dalla parete, poi dove c'è questo ammortizzino ci mettiamo lo colleghi il termosifone a fare di viaggi, dove c'è da farlo. Ah, ma tu parli direttamente all'arrivo del cavo vicino all'apparato, no? Io pensavo collegarlo al palo dell'antenna per dire io ho quei ferri affioranti dei pilastri, volevo collegarlo lì nel solaio. Allora fai così, metti un cavo, una freccia nuda del rame, assegni forse l'antenna con un mossetto e poi la assegni lì i ferri che sono le calze su, se lo metti a massa. Quindi dice, va bene così, ma per qualcuno me l'ha sconsigliato, dice stai attento ti crea problemi, è vero questo fatto? Anche se devi considerare comunque se una messa a terra deve essere terra, non sul cemento, perché deve essere sempre un posto umido, una buona terra è sempre un posto umido sulla terra, non sul cemento. Quindi ti auto umido nel senso sì, la manco penso una terra che se ci passa anche il palo, in un momento è in corso antenna, però penso io non te li ho messi, ho messo freccia di massa collegata con un pezzo sulla terra, ho mai fatto un lavoro come il te, a me se legare problemi o veramente non te ne posso legare. No, non parlavo della manto, ma la manto quando mi ne mettono, sto parlando per la multibanda, che quella lì è proprio diretta. No, la multibanda volevo dire, cioè, collegala pure, non te la usate. No, perché la preoccupazione è sulla multibanda, la manta va a essere cortocircuitata, cosa ti può dare problemi? Poi c'è quella stella sopra, non mette in coso la massa quello lì, cioè non di massa, dico isola, quello lì, non è un isolatore quello. Non è isola la stella, è un po' più blasse, è una sorta di, come ti posso dire, di rossetto. Io sono una donna, si spesso una che si mette nel rossetto, quello è il rossetto delle donne, la bunda, Roberto, è un tasso a forma di stella di plastica che non serve una massa. Io pensavo fosse per le cariche elettrostatiche con la roba lì. No. È una cosa di bellezza. Tutta la roba che va già attaccata, c'ho con le due parabolone, quelle già le ho messe a massa, ho detto succede qualche cosa. Qui ci sono queste due antenne, la Mantova e questa multibanda, qui l'antenne TV, ma che dico che è già tutto. E io mi ricordo in campagna, a me la presentò l'antenna, però da alta, siamo messo sull'antenna, la presa in pieno, la sciolta, l'antenna, la base, l'aveva fatto un po' scesa dentro casa, mi ha colto tutto il sacco, mi ha bruciato il torino. Addirittura, no, l'antenna ne ho visto saltare, però alla noi c'è saltato l'impianto elettrico, avevamo un cavo esterno, e lei non era nostro, nell'officina, l'ha preso in pieno, l'ha rimbalzo un cavo dell'alta tensione. Normale, io ho visto il telefono magna, cioè, proprio sciolto, chiamava a metà del giorno. Mi ha detto, come sono un milione di volte, se tu riesci a trovare cammino, guai. Se tu devi trovare il portale spazio, non si entra la linea elettrica, non si entra il telefono, tu si abiti in campagna, la prima cosa che fate è la posta sommersa, la cosa che parte, se non si entra in cancello, se passi, il televisore non sono mai battuti, nella zona nostra c'è stato un furto un paio di anni fa, ne ha crappato pochi i televisori. Ma io mi ricordo l'estate, me ne ha parlato 4 stagli, 4 col fulmine, preso in pieno, e anche la campana, quella che aveva in officina che lui non sentiva bene, quando suonava il telefono, anche quella c'era fregata. Gaffa, lo conoscevi bene quindi a mio zio? lo conoscevo bene bene, ma il fatto che lo conoscevo anni e anni, perché tu eri anche amico, molto amico di mio zio da quando ero giovane, proprio lo conoscevo bene bene bene, da quando ero piccolo, da quando avevo 12-13 anni, adesso ero 34. Vabbè, quindi probabilmente conosci anche a me tu. Non lo so, può darsi, io lui lo conoscevo bene, conoscevo bene i figli, uno e anche l'altro, la moglie e tutti. Ho lavorato anche per la scuola, con l'esercizio e tutto, ho fatto un po' di lavoro anche in officina. Allora anche a Tintino magari ha lavorato da lui. A Tintino ero andato per sistemargli l'antenna TV, perché l'aveva piazzata un mio collega. Sono andato io dopo un paio d'anni a dargli una controllata perché non riuscivano a vedere più bene e gli ho dato una controllata così, ma ha visto la mia favola. Che pagata. La biglia d'amore è un raggiunto. Cosa ci vuoi fare? No, io rispetto, non li ho, lasciando il sito il fatto, non ho più avuto nessun tipo di contatto, prima ci passavo ogni tanto e... Non so, neanche tu che fine abbia fatto il figlio l'altro. Ma sempre lì, mi c'era anche stamattina, siamo in buonissimi rapporti, viene sempre da me, non dico tutti i giorni, ma quasi, per consulenza, a dargli un colpo di mano. E che allora il problema loro che non sono come noi, diciamo hanno iniziato da grandi a lavorare, dai, in quell'officina. Lo so, però non ha mai avuto voglia, no? Ho sempre avuto la passione delle masse, poi delle masse, la bella vita, però purtroppo la bella vita, Roberto. Non si può fare così, no? Purtroppo se ne sono accorti i ragazzi quando c'è stato il problema del padre, Monani, ma purtroppo poi è stato sfortunato con lo macello, tutta la storia, lo macello, cosa è successo? No, io rispetto, era molto amico, lo sentavamo praticamente assieme, con un altro mio cugino, e quindi per quello che ci conoscevamo proprio bene bene bene. Andavo sempre, lì mi avevo anche segnalato la macchina quando ho avuto l'incidente, io gli avevo preso un cane in pieno, la macchina mia da 2 mesi e me l'avevo fermato, me l'avevo cambiato cofano e paraurti. E tu li conosci già da quando erano nella tua officina prima? Sì, li conosco da quando ero via San Giulio, perché ci lavorava Massimo Novori, un mio amico lì con loro, con signor Piero. Gaffa. No, mio Piero aveva iniziato da lui, ha lavorato fino, diciamo, appena sposato, fino a 4-5 anni che l'ha sposato. Gaffa, no, io l'ho conosciuto quando era lì, perché io lavoravo praticamente in via Savoia e lui era lì, come girava l'angolo. Mi ha lavorato, era un asino lavorando, tutto lì mandava la sua parte da solo di lì. Ma non so che era un asino, era anche un bravissimo manierista, no, però ero pensando che era di BMW, entrava con la mano, col sacchetto, e faceva un attimo che la riportava, era veramente bravo, bravo, bravo. Poi era un uomo, guarda, meraviglioso, aveva un carattere stupendo. Solo purtroppo, la vita ha sempre la sua incognita. La vita famiglia l'ha passata giù, quell'altro che è morto da poco vicino alla zona morta del monte, non era il fratello della madre, quello che ha preso fuoco la macchina, non è saputo? No, me lo ricordo, e ha preso fuoco la macchina, ma in questa zona, fino al monte. E alla Pinetta, su, con la macchina che si è sbattuta al muro, gli ha preso fuoco e lui era dentro, che gli ha avuto un infarto. Guarda, non so, figa, Due mesi e mezzo fa sarà. L'anno prima gli era morto il fratello, l'altro fratello, quello giocando a pallone, fratello della moglie. In vita famiglia ne sono 6 lutti in 2 anni hanno avuto. Guarda, tremendo, a me infatti mi chiamava. E Marco, vieni a controllare, forse, lo sento. Purtroppo poi alla fine è stato preso con la malattia e ha fatto una fine poverino. È stato ricoverato dove lavorava mio padre. Poi faceva l'infermiere, lui era ricoverato lì. Dopo l'ho rivisto, lì sono andato a trovarlo e stavamo parlando, mi ha detto, lo vedi adesso come sono. E poi ho detto, ma questo io ormai fai pensione, sia tranquillo. Però volevo che lui si preoccupava perché il lavoro cosa vuoi. C'è un lavoro ormai. Poi purtroppo non aveva i figli che l'hanno aiutato, vivevano da altre parti, quelli. Poi piano piano quando hanno capito la situazione pure loro si sono dati la mossa, stavano ingranandomi e poi è successo il fatto di Marcello. Sì, infatti mi ricordo che stava ingranando bene perché anche da voi. All'inizio era un pochettino così le cose, poi ho visto che si sta camminando, poi a un certo punto ho notato tutto quanto a Rossoli, per carità, guarda, io sono anche andato a fare la relazione. Purtroppo il destino, quello è stato proprio crudo. Se stava tornando a vedere la barca, aveva comprato la barca, non lo sapevi? No, non lo sapevo perché, ripeto, mi è capitato che tutto quanto, poi in un periodo che io stavo lavorando fuori, e quindi mi ha chiamato a me, mi sentivo meglio, mi sentivo così, così, ma sono tutti lui, e io sono andato in periodo, sono stato 3 giorni e niente, sono andato perché mi faceva piacere andare, però non ho fatto con niente perché, ripeto, ero fuori, quindi non ho la conoscenza di nulla. La macchina te l'aveva comprata la mattina, l'hanno telefonato la sera, quello che l'aveva venduta, e detto, vieni a controllarti che c'è un po' di mare, le ormeggi e tutto qua. Lui stava rientrando da quello. Cosa ti vuoi fare? Vabbè, vuol dire che doveva andare così. La strada l'hanno aggiustata, l'hai vista, tutta illuminata, tutto quanto. Se ci fosse stata quella roba lì non sarebbe successo probabilmente niente. Vabbè, ma io che mi stavo per pensare, io ho preso solo questo, sicuro che così. Se fanno una cosa ti deve capitare, qua puoi fare tutto quello che vuoi, ma se ti deve capitare ti capita, momento o momento. E tutti dicono che ognuno di noi ha un orologio, a quell'ora devi andare via. Ma poi il discorso suo è che non ha fatto il tempo neanche il padre, il poverino, nessuno, è una cosa allucinante. Una settimana è passata già. Guarda, tremendo. Vabbè, dammi un argomento, se no quello non è la prima. Riprendi Luca, dai. Tommaso, chi c'è? Mario, ci sei? Non vedo nessuno. Gianni? Non so se sono spostati magari. Claudio, ci sei ancora? Mi sono spostato. Silenzioso oggi Claudio, come mai? Non ho mai voce a parlare. Oh, riprendi tu, Anto, dove ti dico? Sento, morto, come faccio la... Sento un gioco, ma non c'è nessuno. Niente da fare. Oh, Claudio. Comunque, a parte il fatto che è una cosa, ma butta fuori un certo della radiofrequenza con l'affare, non va bene, fa niente. Cosa vuoi dire? Era successo, io l'ho usato una volta per provare a trattenere, ma... Guarda, io ho qui il, non so se lo conosci tu, quello della ZG, il TM999, è vecchio, fra, non ne può più, che quanto è vecchio. Eppure mi accorgo e parlo tranquillamente, con quello lì lo collego, mi chiedo a stazionare, mi accorgo, però non portate di cittura, tutto di televisione. Lo sai che a me fa così, infatti vuoi la televisione piccolino, mentre invece gli altri no. Fatto pensa che mia moglie sta guardando Fox su Sky, gli faccio una ringrazio nella televisione, ma se lo so, non serve una mazza, mi dispiace. Tanto non so se si può modificare perché non filtro interno, però non. Allora ti dico, c'era la media di gomma, io l'ho preso per fare così delle prove mentre scelte, ho visto che accordava e poi l'ho messo lì. No, beh. Ma questo qui è andata via, sono accordato perché non è accordato, uno e uno. Però l'altro ha detto, meno di una prova non mi scendo. Non so cosa dirti. Vabbè, useremo così che già li picchi. No, come se pure, cioè, non ho neanche guardato bene, come se pure che abbia delle falature fredde, sono queste strumentazioni vecchie che avevano fermela in magazzino da tanto tempo. Ma per me che mi ha uno strumento giallo e uno bianco, anche tu è così. Sicuramente sono stati più di tanto tempo, anni sono prima di vedere, avevano le falature strette, avevano, qualcosa ce l'hanno sicuramente, però, questa è roba nuova, cioè non è che è roba, se è stata usata per trovare un gatto. Ma vabbè, ma non è che è roba vecchia, quindi no, so. Vabbè, fai girare, fai, già sono qua io là. Ma non sono, non so. Ma questo è quello di me, Claudio. Allora, è un comodo quello che si promette. Perché lui deve intendere la fabbrica delle punte in dubbi. Ma non so. Ma non era nuovo questo? Ma... dove ti? Nuovo, ma ce non funziona, dove ti? Vabbè, non me la sarà pensato, Roberto. Allora se lo uso come commutatore d'antenna e come rosa, però come rosa non funziona, come commutatore d'antenna lo stesso, ma che fa l'assorbatore. 40 euro lo so, già, mi devo fare che cazzo con 40 euro. Vai con 40 euro nel stato di negozio, ti compro la norma della radiofagia, di chi ti fa le pasta. Gaffa, gaffa. Comunque le luci almeno si illuminano. Claudio. Sì. Quel tipo del pazzo, cosa l'avete mandato? Le feedback negative? Meno male, ti ricordi quando c'era scritto che i miei feedback, leggete i miei feedback, che sono un radioamatore, sono una persona seria, un sacco di balle avrà scritto, ti ricordi? Anche su tutti i coraggi, non compro più io di niente. Tu stai inventando, ma anche non trovi un'offerta mai, se costa 100 lo paghi 5, però se c'è poca differenza dal prezzo normale del mercato non conviene più comprare. Ma non so cos'è, Rubè, è che sono robe, anche nuove, sono che sono state ferme tanti anni e quindi vogliono tutto resistere comunque in ogni caso. Ma è una roba buona, e però ci vuole sempre una ricontrollata. Comunque, quello di sta sempre andando adesso, Claro, sai? Io non ho la cucinetta, ho praticamente pulito i contatti, le relè, ho pulito tutto quello che c'era da pulire, altro no. Non potevo fare perché non sono alla testa di farlo, quindi può essere una coincidenza, facendo un po' di pulizia sui contatti, anche ho seguito anche i cavettini, i fili che vanno allo smitter, quindi ho pulito anche lì con lo spray disossidante e tutto. Ora si è fortunato che era solo questione di sporcizia. Gaffa. Non capisci? Fai Luisa, fai Mario, questa cosa non siamo fuori. Doppio rubo ci sei. Antonio, ti abbiamo chiamato, non hai risposto. E ti ho andato a parlare sul tenente nel campanone. Ciao. Rispondi Mario, rispondi che ti stavamo chiamando. Sì, mi sono fatto chiamare, ma io non c'ero. Ho portato il tenente nel campanone, e metto là dentro, e quelli c'è niente. Ma non voglio smettere. Ma quanto è vero sta? Cappa. Ehi vabbè, lascialo piovere il suo tempo e mai, perché quando troppo poi smetterà, non si può mettere siamo le belle giornate, siamo già a febbraio, quindi niente. Cappa, io non sto dicendo niente di quello, no? Perché non mi volevo bagnare la parrucca. Ah, vabbè, basta la riuscire senza parrucca, tanto di notte chi ti svolge. Guarda, perché tu c'hai ragione, ma quando io non c'ho una ragione, ma che vogliono tutti. E vabbè, ma non si svolge, no? Se mi chiedi, mi sono pegato a zero, così mi ricercano meglio. Vabbè, c'è la c'hai ragione, io sono a Puglia. Ma non so chiamare molto però. No, il discorso che stavi dicendo, che può passare là, a Puglia, a Puglia, a cosa me l'ha contato Puglia, no, nulla, niente. Puglia, io Puglia ho mangiato poco, sono da solo, quando lui si sta vedendo una multa a piega, mi vanno da solo, lui si va là e mi dice di arrangiarmi. Ma lo sai che si crescono i genitori, devono dare spazio. Ma non dico io, ma quando è tornato, arrivo ci mi manco un bambino saluti, che sa di manco di saluti. Mario. Dimmi. Basta un po', sei troppo alto per me, almeno dal punto di vista mio, non so per gli altri. Io sto sempre abbassando la voce, cosa vuoi che dica? Provo un motore un pochettino l'amplificazione, così magari se dovessi alzare non succede nulla. No, adesso sei troppo basso, alza appena di più. Così va meglio. Cappa, va benissimo. Sono contento che vi vada bene, almeno non avevo quelle orecchie, almeno, Luca, manicomio, sparito sparisce quello lì, sempre i martingelli e poi di chissà, andare là, almeno. Lo so, non me lo troveremo. Lasciatelo fare. Ah, beh, sono fatto il pure un guaio. Così non mi senti, se salva c'è tutto, lasciatelo andare. E tu la mantiene? Io non lo mantengo di certo, non mantengo nessuno video. Sta usando il video senza i coperchi. L'importante è che non ci metta le mani, allora che non gli cada nulla, perché potrebbe essere un guaio. Che fa questa coperchia, Robert? All'aria aperta come si faceva alla 500, finalmente ha preso il cofano di dietro per farlo raffreddare. Io mi ricordo che se smontavano le cerniere si mettevano, la aprivano da sotto. E al contrario la aprivano, tipo Giannini o Amart. Così la raffreddava a raffica di svento, siamo piano. E come me lo fate, Robert? Non è che gliele ho fatte, le ho fatto la battuta a Russi. Cioè è uguale al mio il colore, c'hanno un colore a specie di un azzurrino metallizzato, una cosa del genere. Gli ha dato questa bomboletta del Schifu, per tu gliel'ha dato, dovuto dare l'isolante perché stava assorbendo il filtro. Molte volte sono venuti dal fondo, ma no, non è che è del Schifu per c'è. No, non ripeto, ha un colore strano, la Midland adotta quel colore che non è né azzurro né grigio, un colore particolare, è tipo quello della Intec di nuova generazione. Infatti a me mi piacciono gli apparati neri, o neri o argento, vabbè argento si sporca, ma nero è il migliore. Ma lo so, vedi, io volevo riverniciare i coperchi a uno più io, però non fa farli neri perché il frontale è dello stesso colore, capito? È un verde grigio particolare. Questi due marini invece che c'hanno dalla Sommercamp, allora le cose azzurro metallizzato, i coperchi, li ho dovuti fare neri e hanno già un bado aspetto. No, azzurro metallizzato, mamma mia. Ma già ce li hai ancora quei due marini, sì. Cappa. Stavo dicendo, c'è anche l'antenna marina. No, antenna marina no. Almeno io non ce la posso chiedere che me le ha dati. Chiedi se c'è anche l'antenna marina. Che prima che non riuscendo a portatore se chiedo per quella roba lì se porta meglio o se ci vuole qualcosa particolare. O se bisogna richiederlo a Cagliari, boh. Prova a chiedere se è necessario che siano omologati. Beh, i buonacarpe non sono omologati. Buonacarpe ci vuole vicino, oppure una specie di permesso speciale, visto che quelli lì sono sulla banda marina. No, no, no, la concessione bisogna farla, però entro le 6 miglia non ce ne vuole il patentino. No, no, la concessione se la rilascia la capitaneria di porto Mario, solo l'apparecchio deve essere omologato. Deve essere un blocco marino omologato. Questo non lo so, perché bisogna vedere uno che ha una barca di 30 anni là con lo stesso apparecchio, così ce lo deve buttare. No, però 30 anni fa lo utilizzava e quindi ci avrà una vecchia autorizzazione. Sicuramente così, non lo so, non insisto. No, non mi spiego, stava così. Allora, io poi non lo so perché, rispetto, non ne ho più... Allora funzionava così, l'apparecchio omologato, sì, l'apparecchio omologato marino, quindi con quel canale lì per stabilirsi, la domanda che faceva il capitaneria di porto, e poi ci rilasciamo loro una sorta di autorizzazione. Questo devo verificare se sono volati, perché non lo so se c'è l'elenco, perché molti apparati non ce lo scrivevano l'adesivo sopra, non lo mettevano, però c'era un elenco, il ministero rilasciava l'elenco, bisogna controllare se in questo elenco figura. Sì, vabbè, ma ci sono apparati comunque marini, forse sicuramente rientrano sempre negli omologati, anche se non hanno la targhettina. Niente, basta chiedere, loro ci sapranno dire di più. Ogni tanto cambiano, fanno, smontano, dispano. E capo, poi bisogna vedere com'è la potenza, com'è per i marini la potenza? La potenza per i marini è ugualmente che quella della banda cittadina, un watt e 5 watt. E allora mi sa di dire che è l'offia la questione. Un watt è bassa potenza, 5 watt alta potenza, basta. Poi ci sono i filler, che di solito vengono montati in, diciamo, in imbarcazioni grosse, e allora quindi riescono ad arrivare quante watt in più, però siamo sempre lì. Ma poi ci sono 1 e 10 watt. 1 e 10 watt. Vabbè, però c'è pure che siano sempre omologati. I filler che ci sono 10 watt. C'era addirittura qualche filo. C'era un modello che aveva il monofonone grande con la nota tipo goniometro. E quello ci va 20 watt ed era omologato. Però negli anni che furono. Chi ce l'ha, se lo tiene anche caro. No, questi sono una bomba, le ho provate, sono micidiali. C'hanno 12 canali, più c'hanno i canali, cioè ascolti i canali della frequenza come si chiama, dei bollettini del mare, c'ha 2 frequenze preimpostate su quel canale lì. Sì, io ce l'ho anche io portato nella Lore, marino, con i canali privati, ai canali normali più a 8 canali privati. E questo poi c'è la possibilità di aggiungere altri canali, però non ho capito come, c'è un sistema, visto, boh, non so come si fa. Sono i canali privati quelli. È una modifica che si faceva a parte, poi chi la voleva utilizzare lo utilizzava, chi la voleva utilizzare lasciava stare. Allora questo ce l'ha già la modifica, perché li utilizzava mio zio a lunghe distanze dalla casa sua, da Sassari fino a Porto Conte, dove c'era la casa al mare. Ma no, andavano bene, io sono più piccolo, vecchio, sono più voi, però funziona sempre bene. Va bene, noi ci vediamo, vi saluto e ne vado a letto. Ciao Roberto Mario, quando c'è l'ascolto, quando Luca, Maria, Gianni, tutti che sono. Buonanotte a tutti. Ciao Antonio, ci risentiamo alle prossime, ciao, buonanotte. Ciao Antonio, buonanotte e buon lavoro per domani. Ci risentiamo, ciao ciao. E provo a chiedere, se eventualmente c'è anche un'antenna, almeno una me ne serve a me, se ce l'ha. Che così uno di questi giorni ci porta a pompone e me lo faccio piazzare nella barchetta. E adesso mi come c'è febbraio, a metà marzo mi sai che non siamo a metterla a bagno. E beh, ma se tu vuoi anche la pella 27, no? Fare il VHF marino. Oh, un vacanza marino, se non voglio piazzare un vacanza marino. E cosa te ne fai del VHF marino? E cosa ce ne fa un marca di un VHF marino? Sì, vabbè, diciamo, il marca serve il VHF marino, però dico, visto che tu parli nella banda cittadina, ti conviene metterti un barattino. Il VHF marino serve per ascoltare, per sapere com'è il tempo, com'è il mare, tutte queste cose qui. Poi può affittare anche un piccolo, vabbè, meglio che non ne succeda mai. Vabbè, quello meglio non chiede. Io tutte le volte che esco mi porto sempre il telefonino e non mi allontano mai oltre i limiti di ricezione del telefonino. Quando mi succede qualcosa si va in soccorso al mare, non mi ricordo che numero è 1516 o 1518. Blu. Gaffa. No, io telefonino non me ne posso più in marcia perché l'anno scorso c'avevo Lucia, c'avevo 3310, ce l'avevo in tasca, ma no, il mio è uno scappo e ogni tanto qualche schizzo d'acqua salta. E la cartellina gli ha mangiato l'attacco dove si carica la batteria. E cappa, però bisogna stare attenti dove devi mettere una custodia impermeabile. Gappa. Ah, purtroppo è così, mi sei mandato il telefonino. Niente, adesso ne abbiamo altri, quelli lì sono parcheggiati, però mi è dispiaciuto perché era nuovo nuovo. E la cosa da me, di me non mi si piace in Eva. Stavo rispondendo, me l'ho tolto dalla tasca, tu l'ho preso al volo, stava cadendo in acqua. Sei stato fortunato che non è andato in acqua. È vero. Cosa ci vuoi fare? A volte succede, cade per terra, cade in acqua. A un amico mio si è inchinato per pulire il bagno con lo spazzolino e se l'è caduto il telefono. Purtroppo poi sono talmente delicati, se c'hanno la batteria ce li butti, non c'è niente da fare. Gappa. Ma uomo, c'è la donna, mi sembra 4-5 giorni, c'è la donna nella cassina, nella camicia, si è tirato per pulire il bagno a casa sua, gli è caduto il telefonino, l'ha recuperato, però non funzionava più. Tu devi venire a Patamona dove siamo noi, non so se c'è presente i casutti, le vecchie gabbine. Ma casutti, vecchie gabbine, Patamona, che io sappia non ce n'è più. Sì che ci sono case adesso, dove c'è la torretta, prima della torretta. Ah, Clappagappa, sì, ho capito, quella casa che prima erano capanne e poi lì c'è stato, chissà che cosa. Non le hanno buttate mai giù, invece lì vicino alla rotonda, Giancapani e via dicendo, lì le hanno buttato tutta terra. E vabbè, queste sono le uniche che sono rimaste. Di lì d'estate, verso le 10:30, tutti i giorni, passano le navi, le grandi navi veloci, e si forma un'onda anomala, sempre a quell'ora lì, 10:30-11, la gente non lo sa, cioè chi lo sa si sposta, la maggior parte non lo sa, non tiene le telefonine in Eva. Gappa di positivo, io purtroppo lì non ci vado mai, lì ci vado di giorno, è onda anomala, non ce n'è. Io c'era un periodo che frequentavo la torretta perché ti mettevi su vicino alla torre, era lì tutto bello pulito, piazzavi il braciere e accendevi il fuoco. Vedevano magari un po' di fumo, si avvicinava la forestale, però vedevano che era tutto tranquillo e se ne andavano non dicevano nulla. E noi a mangiare ci mettevamo un po' lì a ridosso di quegli alberi che ci sono proprio di fronte alla torre. Kappa, no, io ci sono più di 20 anni che ci vado, 23-24 anni, noi mia zia ci andava a casa, ormai ci abbiamo un sacco di amici, parenti che ci hanno la chiesa che abitano di lì, e per cui vado sempre lì al mare. Kappa, vai lì, e la barca dove la metti? Ma la barca la tengo in porto, ma quando sono lì barca quasi mai ne uso, la sera durante la settimana ti capita. Ah, Kappa, no, io perché è un bel fastidiosa, ma se no tutta la sole a portarla lì dalle 6 fino a quando fa buio alle 9:30, ma è una gran sfacchinata perché col carrello con la barca ci metti un'ora a scendere a Platamona. Te ne basta la gana, mentre la salire e scendere ci vuole un minimo 3 quarti d'ora, se ti passano in bus. il capo del positivo, quello deve mettere a mano, deve fare, vabbè. No, tutti i giorni durante le ferie di quella lotta là, che pure non è che siano morte, sono 15 giorni, niente. Però quei 15 giorni, la mattina presto, 6:30, via, a mare. Parlate che non le butti. No. Come hai detto? Cosa hai detto? No, hai detto di no, poi non le butti. Non ti piace, no, noi ce ne buttiamo spesso, dire, qualche pescatina, non dico tutti i giorni, ma gli amici che stanno di lì, si può dire un giorno sì o l'altro, lo stesso buttano il parametri, io non è che sia grande pescato, qualche volta capita. No, io non ne butto il parametri, io ho un paio di canne, una latraina piccolina, niente. Però è intenzionato, se capitarla, forse me lo compro uno, già fatto, lì a Porto Torres, li ho visti, belli, però vogliono 80 euro, ma la cinghiala. K, 80 euro, infatti lo dice anche, ma a me me ne hanno regalato due di parametri, ma problemi non ne ho, c'ho tutti gli amici, il socio del mio fratello, c'ho tutti i bicadori, quindi c'hanno, ne hanno a business. K. Ma io sono entrato una volta lì in quel negozio che c'è di fronte al porto, proprio quando arrivi a Porto Torres, di fronte al porto c'è quel negozio di pesche, li ho visti un paio di parametri, però mi ha chiesto 80 euro. Sì, l'ho visto quest'estate anche io, con la cesta, con l'azzurro, già tutto pronto a cosa, a mettere a innescare, 80 euro, infatti ho detto, alla faccia. Ehi, K, vieni mammi, adesso, io, secondo come va, mi organizzo, niente, così almeno se butto qualche palamicino, ma piccolino però io lo voglio, non voglio fare troppa fatica, ma palamici da 50 anni, ne piglio due, e butto uno in un angolo e uno nell'altro e poi io mi allontano un poco e mi metto a pollicinare. K, no, già sono buona, mi. Se ti capita la pescatina già te la fai. No, ma anche l'anno scorso la pescatina me la facevo, però non è che ho fidato chissà che cosa, No, ma stanno entrando anche pesci di quelli tropicali, squaletti, cose così. Pesci che non avevo mai visto, che sono sui giornali di vedermi. Mi ha tirato fuori quest'estate, come si chiama, il cognato di mio fratello, questa specie di pesce aquila, non so se lo conosci, ma hai visto, solo sul giornale l'avevo visto. Non ne ho mai visto, come non ho mai visto squali qui nei nostri mari. No, li stanno tirando fuori questi squaletti piccolini, tipo Gattuccio, la Vellessa, squaletti piccolini, quelli li stanno tirando fuori. Ma un meme. Un Gattuccio non è una squadra, no, è la stessa famiglia, però da un Gattuccio a uno squadro di differenza, Vabbè, io sto parlando della stessa razza, non è lo squalo balena, lo squalo tigre o lo squalo bianco, non è però sono squaletti piccolini di 40-50 centimetri di tiri fuori. Adesso bisogna che ci organizziamo un po' e poi si vedrà. Adesso almeno prima di scadermi l'assicurazione, ma la marcia me la voglio godere. K, no, io ce l'ho tipo l'anno l'ha fatta, tu come l'hai fatta? Io l'ho fatta tutto l'anno, però io sono partito, mi sembra, da luglio, così che quando luglio che scade me la godo, perché se no solo per quel mese all'anno che la metto tutti i giorni, non è che almeno il fine settimana, dal sabato sera alla domenica, me la voglio spostare a mare. Ormai mi sta diventando anche un po' caruccia la pressione, l'assicurazione carrello, l'assicurazione motore, benzina, eccetera, eccetera, ma fate un giro, vi vuole un bel di là. Guarda che circolazione mi stava dicendo che il carrello non è obbligatorio assicurarlo. Allora, il carrello non è obbligatorio se lo tiene attaccato alla macchina, dal momento che lo stacchi facendolo in acqua o per qualunque possibilità, per qualunque necessità, in quel momento ci vuole. E se ti trovano senza assicurazione ti fanno nuovo. No, ma io la barca la butto a mare, ma il carrello rimane agganciato alla macchina, Vabbè, tu vai a sentino se ne puoi tenere carrello attaccato alla macchina, se te ne fanno tenere. Allora te non ti danno in qualche angolino. Se no te lo devi staccare e lo devi mettere dall'altra parte. Se ci fa male qualcuno, si aggancia il carrello e non si è assicurato, ti fanno nuovo. La pagappa. No, in questa giornata hai ragione, no, io infatti poi ho fatto la circolazione perché ho detto, e se capita anche il buco che sgancia il carrello dalla macchina, ho scappato di assicurazione e gli sai a casa i sussidi. Poi il gancio e poi ci pago quasi il 7-8%, mi stava dicendo, per il gancio traino, l'8% della circolazione della macchina. Gaffa, e quello ci vuole lo stesso, perché un bel gente il gancio di treno non l'assicura. Sì, ma a che cosa serve assicurare il gancio traino se è già assicurato il carrello? Allora, quando non hai il carrello attaccato, ci rimane il gancio di traino. Se si sbatte qualcuno dietro alla macchina, lo sai che passi guai se non sei assicurato? Perché cambi la struttura della carrozzeria della macchina, la irrobustisci. E può creare problemi a quelli che si sbattono dietro. Ma quello che si sbatte dietro, peggio per lui che si sbatte tutto dietro. Il fatto che si sbatte dietro c'è sempre colpa. Sì, ma i danni che si causa, quello che si sbatte a te che c'ha il gancio di treno, sono superiori a quelli che si causerebbe senza il gancio di treno. Pagato, ma siccome il gancio di treno è traibile, quando non c'è il carrello non lo togli. Sì, metti l'occhione e il resto del gancio di treno, il coso, col tubolare, tutta quella roba lì, quella rimane attaccata alla macchina. E poi mai coperta la paraurti. E poi va a farti sbattere dietro con una macchina a vedere cosa ti fai. Tu e cosa si fa lui? Se si sbatte uno dietro mi piega tutto il cofano, perché ne ho già visto 55 sbattute dietro e il cofano dove ci sono i parapanghi si piega. La prima cosa che si causa sono danni gravi lui, e poi tutto il colpo te lo scarichi tu, non c'è più la cellula di assorbimento dietro nella macchina, te la rigidisce, è come se tu c'hai un fuoristrada e c'hai quei paraboli, paracarri, non so se ce l'hai prese, se ti sbatti tutto il colpo, anziché scaricarsi, deformarsi la struttura della macchina, si scarica sulla parte rigida, per cui tutto il colpo ti arriva all'interno, ti pigli un colpo di frusta e neanche tre accusi. Diciamo che io l'ho visto il mio e non c'è niente di eccezionale, perché c'è una sbarra leggera che va attaccata dove ci sono gli agganci del paraurti, non è che ci abbia questo rinforzo o chissà che cosa, è una semplice sbarra attaccata al tornaglio dove tu attacchi il paraurti. Allora, quel gancio di treno si attacca a una parte, la parte centrale si attacca al pianale dove ci va la ruota di scorta e poi i laterali vanno attaccati ai longheroni, alla parte strutturale della macchina. Tu non hai idea quanto le robustiscono la macchina. E se ti sbatti dietro ti si piega la una parte l'anteriore, non il posteriore, dal colpo che prendi. Io ho visto una 75 così. E sbatto qua dietro, che però non aveva manco il gancio traino, e visto dove c'è la piega della ruota di dietro, lì si piegano. Appunto, si deve piegare di lì. Tu puoi invece provare a robustirlo con quella piastra, sotto il gancio traino c'è una piastra, sarà da 3 mm minimo, per non dire di più, e poi lateralmente c'è delle traverse fissate sui longheroni. Tu con la cellula che si dovrebbe deformare non ce l'hai più se ci metti il gancio di treno, e anziché piegarsi lì, si piega più avanti, oltre il sedile posteriore. Io non capisco come faccio ad andare oltre il sedile posteriore, perché se perché dovrebbe piegare sempre nello stesso punto, non oltre, sempre al centro della ruota, vicino allo schienale, si piega lì. Non è così che Mario, perché trova il punto più molle, va a piegare il punto più molle, di lì è più robusto perché c'è questo rinforzo in ferro e l'avettone, oltre quel rinforzo trova la lamiera morbida e molla di lì. Però nel frattempo tutto il corpo te l'hai preso tu dietro, io parlo dentro gli occupanti della macchina. Sì, sì, ho capito quello che stai dicendo, però nella 55, quel rinforzo che stai dicendo tu al centro non ce n'è. Nella 75 sì, perché c'è una sbarra grossa in ferro dietro, poi attaccata a quella sbarra c'è una specie di pianale che si mette lì a fianco più o meno alla ruota di scorta ed è ammullonato. Quello lì sì che imbottisce tutto il cofano della macchina, perché c'è anche la piastrina, ma nella 55 piastrina non ce n'è. C'è questo tubo con l'attacco per il gancio traino, per la burchia, là, per capirci. E poi ci sono due semplici tacchi laterali dove si attacca il paraurti, tutto lì, non c'è nulla. Ma la 75 era molto meglio, perché la 75 è una sbarra di ferro abbastanza grossa, non abbastanza, grossa. Molto più grossa di quella che ho io nella 55 e piglia da un lato all'altro e ci sono quattro bulloncini che la tengono, due da una parte e due dall'altra. Praticamente non è che ci sia questo granché, se uno si sbatte anche quella piastrina si piega. Non è così facile piegarla, si piega prima la scocca della macchina. Tieni presente che devono resistere non so quante tonnellate di carico questi ganci di traino. Io ne ho visto macchine capottate, con ganci di traino attaccate, capottata con la ruota attaccata ancora dietro e non si è strappata, però ti vedevi la macchina frantumata. Sta gappa, sì, c'è ragione, però la 75 era tutto diverso perché era intenzionata a metterlo, però poi non l'ho mai messo. Però era intenzionata a metterla e c'era questa sbarra grossa, poi c'era una piastra grande che si metteva dentro il cofano e poi sotto il gancio si abbonava sia a quella staffa lì e sia a sotto quella piastra, perché c'era un braccetto attaccato al gancio e si ammullonava lì. Sono due, quattro radi sotto, e due, quattro, sei e otto radi sopra, bulloni passanti, per attaccare quella piastra. E poi sotto se ne andavano quattro che attaccavano a quella piastra lì. Attaccano nel vano della ruota di scorta, ci sono una piastra sopra e una sotto, e poi ci sono i due laterali che attaccano i lungheroni con i muloni passanti, quelli più lunghi, ed è una cosa un po' robusta per tirare, si possono tirare non so quant'è il limite, 1500 kg tira la 155 e KK è già tira di più, mi sembra che tira fino ai 3 quintali, boh, una cosa del genere. No, non è esageria, intorno ai 1.300-1.500 tira fuori la macchina, 3 quintali non ci vuole la patente C per tirare e la 3 quintali. Quello non lo so, se ci vuole la patente C per tirare 3 quintali, allora quelli che hanno quelle barche grosse devono avere la patente C per tirare loro la macchina. Quintale, volevo dire tonnellate, allora tieni presente, la patente B ti consente di portare sino a 2,5 tonnellate di peso complessivo a pieno carico tra la macchina e il carico, il rimorchio, la B, oltre ci vuole la patente C. Tu puoi arrivare sino a 3.500 kg, cos'è che se la macchina ne pesa 14 quintali, puoi arrivare con altri 16 quintali, così è. Perché 14 e 16 fanno 30 quintali. Ma no, puoi arrivare fino a 25 quintali. Allora c'è scritto questo. Io sono la patente B, posso arrivare fino a 35 quintali. Alla B. Un camioncino, io sto parlando di rimorchio, non sto parlando di un camioncino, è un'altra cosa quella, quello è un carico chiuso, io sto parlando di rimorchio. A rimorchio, 135 quintali devono essere, se la macchina ne pesa 14 e il terreno ne pesa altre 14 compreso nella macchina, sono arrivato a 30 quintali. No, infatti ti sto dicendo quello che, per quanto nessuno non insisto, però io sapevo che tu non puoi trainare tra la macchina e il carrello più di 25 quintali, sommati tutti e due. E bisogna che mi informo, perché io ho una barca che mi sembra molto pesante, io penso che pesi di più di 3 quintali quella barca. Parlando di 25 quintali, non di 2 quintali e mezzo, la barca tua peserà 700 kg, diciamo 7 quintali, esagerando, dai. Sai, K, non lo so, non l'ho mai messo sulla pesa, è vero, non l'ho mai messo sulla pesa, e niente, così che non ti potrei dire niente di eccezionale. Ti posso dire che però per quello che so io è che la patente mia è rimasta a 35 quintali, poi se per l'avventura è diventato arrivare a 35 quintali allora è diverso, quello lì io non lo so. Vabbè, questo non insisto. No, ma tu non hai la marca tua, non hai detto che c'è il carrello piccolo, il 296, non è quello lì? No. Io ho un carrello che sì è piccolo, ha le ruote piccole, addirittura non c'è balestre, non c'è niente, c'è gli ammortizzatori e non c'è freni, non c'è nulla, è quello ultraleggero, però mi sembra che sia lungo intorno ai 4 metri, 5 metri. Non è l'LB, mi hai detto che c'è l'LB tu, quello con le ruote da 8, da 4008 che ti hai cambiato le ruote, quello porta, c'ha una portata di 296 kg. Non lo so, non me lo ricordo la portata perché bisogna che guardo il foglio che ho messo nel libretto. Però mi sembra che sia 350 kg il carrello mio, non voglio insistere. Perché l'ho pigliato, l'ho immatricolato, l'ho fatto, quando mi hanno rilasciato il cuglio, ho pigliato e l'ho buttato da una parte. Però mi sembra che sia fino a 35 kg, ma 35 kg, 350 kg. Sì, 350 kg è la portata complessiva, la tara più il peso rimorchiabile è un 350, però in portata effettiva, se stiamo parlando dello stesso carrello dell'LMB che ce l'ho avuto anche io, è 296 kg, si chiama LN296, e poi c'è il 450, il 650, il 1000, il 1500, mi sembra fanno anche il 3000, non so l'LMB se lo fa veramente. Gappa, buongiorno che sei libero, ti porta a vedere la pezza che io ho, e io sto dietro, allora, tu gli hai fatto l'asse con un asse di panda di dietro, no, io c'ho il suo asse originale, e dietro ci sono due ammortizzatori, cosa ti posso dire, tipo quelli della moto, non so se te li ricordi, le vecchie Suzuki che avevano quelle ammortizzatori ai lati e quando c'è la barca sopra si avevano completamente tutti a zero. Cappa, io adesso purtroppo sono piccolini, ce l'ho avuto anche io quel carrello, anzi ne ho avuto due di quelli LB e sono proprio al limite di metterci un gommone con un motore sopra, se non ne dà che cosa in più si troncano in due. Io ho quello grosso da 750 kg, con la barca mia tocca intera, io ho gli ammortizzatori, i molloni e in più ho quei gommoni dentro per ammortizzare, arrivo a fondo proprio a toccare a terra, lo si tocca in due da un momento all'altro quel carrello. Buonasera. culo la candela, buonasera. Il parlato, tutti e due, hai sentito? Ciao ragazza, ciao, buon furia, bel giorno, che sei zitto, in compagnia mia di Claudio. Ma di Claudio, buon Roberto. Ciao Antonello, mi hai sentito? Sì, ciao, sono molto sentito. Ti sento molto basso, mi hai copiato a me, Antonello? Sì, sì, ti sento un po' più basso. Come mai sei così basso di radio? Sì, ah, microfono. Ah, non è amplificato questo microfono? Ciao, il microfono, ma non ti senta. Come va, come va? Sì, non avevo idea, stavo aspettando la tua telefonata, però non ti ho fatto sentire. Guarda, ti ho fatto anche prima la stasera. Anzi, ma scusa, stamattina alle 9:30 non manco a casa. Sono in cazzo, sono 9, ho cenato. E adesso mi sono salutato a palazzina. Stavo facendo un lavoretto in un'abitazione, quindi abbiamo potuto il giorno. Siamo in telefono che mi dà che un colpo e se ne va dove cazzo, ecco perché, capito, non ho potuto ricevuto le chiamate per via sul nostro giorno. Ecco, appagato. Comunque, quando è che vieni? Mira, appena finiscono questi lavoretti che mi sono capitati, degli usi, almeno in caso qualche cosa, Mario. Passo da te, non c'è problema, già lo sai. Ti avviso e già non c'è problema. Non preoccuparti, so che mani buone quella gente. Ah, no, non mi preoccupo. Io non mi preoccupo, capito? L'hai trattato come che... No, con un occhio di riguardo più che fosse mio. È vero, perché quando è roba degli altri bisogna essere ben attenti. No, sono andati bene, non preoccupati, già lo so, già mi fido. Riprendi, vabbè. Tanto lei, con cosa stai uscendo? Con un Tornado, 34S, non dato via... è offendito questa 34S, cioè, non me lo racconti molto lavoro da un lato, ma se dai un colpo alla carrozzeria, si salleva il volume da solo, se ne scende, sembrerebbe un televisore di quelli bianchi e nero a valore. Guarda, però questo bip ce l'hai messo tu o è originale? No, no, questo è stato messo dalla... non so da chi, la verità. Perché quando l'ho aperto si è trovato il bip dentro, con l'effetto eco. Neanche sapevo che c'era l'effetto eco. Gappa, gappa. Riprendi Mario. Ehi, gappa, poi ti faccio una mazza, Antonè, che ti dà l'occhio da lavorare un qualcosa di particolare. D'accordo, il telefono già è sistemato. Come non metto le calzone se ne va la schede da fanculo, ma in questo Siemens. E ora ti squilla. Vai caro, quindi facciamo l'amore al telefono, tutti ci sentono. Mi piacerebbe. Tutti noi, aspetta. Io ti prego solo il tuo per aspetta. È il mio, Che prende da me. Antonè, questo c'è anche l'eco, questo che stai dicendo, questo Tornado. È un telefono, vabbè, un attimino, che riprendiamo subito. Gappa, gappa. non ci sono ancora. Come mi ascolti così? Come ripeti? Così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, come mi ascolti? Un po', forse un po' migliore la voce che è stata prima, meno rauca adesso. È migliore così? A me piace più così, più naturale forse, l'altra era più corposa adesso. Ciappa gappa, sono contento, là. Sono contento! Ma tu hai già cenato? No, Roberto. Vabbè, hai già cenato? Kappa gappa. Ecco, non ti ho sentito andando a mangiare, allora mangi prima dalle 8. Ho mangiato alle 8:30, ho fatto in fretta. Due panni di, come dico io, erano. Ah, gappa, e tu sei la parte dei panini. Allora io mi sono fatto due belle bistecche, mezza bottiglia d'acqua, e tra un po' come farò il caffè. No, due panini di riso e cipolle, non ti piace? Mamma mia. Ma mi piace più il tonno, fagioli e cipolle. Però bisogna stare lontani dopo. Gappa gappa, Giulia, Giulia Vampada. Sarà per corrente. Sì, Antonio, è vero. Ma tua moglie non ti spinge fuori dal letto la notte? È già l'ungrese, da tempo che muri da Barito Baracchino. Ehi, uno c'ha la muria da Barbaracchino, e giù mi sono marito con la zionda. No, me l'ha fatto lei, già è buono. Giusto l'arrosto con le cipolle e il ketchup. La paglia a paglia è buono, là. Una volta che tanto già si può mangiare. Va bene. Tanto bene. Va bene, sì. Di quanti ampere ha necessità quell'apparecchio che sta utilizzando Mario? Può essere una moto con quelle 25 ampere con disconti a manetta. E anche 20. Quindi ci vuole un buon alimentatore. No, sì che è qualche 20. Non so, 20 di meno. Io sono 25 perché è vero. In questo che segna qui segna 25 quando metto a quasi a 100. Poi dipende dal fenometro dell'alimentatore, il mio è chiaramente un fenometro diverso regolato. Comunque si può alzare con delle modifiche la potenza, ho capito, vero? No, io ho già fatto modificato, la verità, però il cibo normale, originale, manca la metà di quanto dà, la verità. Ecco per spegnere il portato, oppure il servizio per fare il 9. Quando lo compri, massimo 4 volte e mezzo. Poi basta aprirlo di oltre i metri a fuori 15. Perché pesa 1000 kg la macchina? Mario, dimmi, dottore. poi adesso arriva a 3-5 km, tu ci metti nuovo rosso dietro, ci metti a me, a te a Claudio dietro, con quattro di quelle belle piazzate negre, a voglia che arriva a 3-5 km, di portata. Ma basta che te ne sento, è proprio la negre, non mi piace, non altro me. Mi piacciono più le polacche, le russe, l'altro giorno ne ho conosciuto una, è abbastanza carina, solo che è russa, non capisco un titolo di quello che dice. Sì, io ne ho conosciuto, guarda, quando andavo io facevo la manutenzione da Dio Maria degli impianti al Marini, e avevo 20 a disposizione, la pillola era sempre gratis, figurati. E qui avevo anche la... facevo le... come si dice, posso dire, le voglio il morso. Tutte le conoscevo, tutte, una faccia all'altra. Sì, vabbè, ma tu è perché sei un porco maniaco. Hai capito? Tu sei un maniaco. È vero, c'hai il cervello baccato. È vero. A me mi basta... quando ne conosco una che ci parlo, però... quando ci parlo che poi non capisco quello che mi dice, è come che mi ci siamo andati a quel paese, così che tanto vale conoscerle. Sì, se vai a coso alla Podiama, sai quando te la accappi di quella. In chi viene? Ma è meglio niente, è meglio stare tranquilli. Poi queste donne ci mettono sempre in croce e vogliono questo, e vogliono quello, e vogliono quell'altro. Allucinante, devi fare che bomba, però un radiale troncato mi pare che c'è, così. Io mi sa che sono due, ieri stavo aspettando a uno, mi fa guardare, come fai ma con la giornata radiale? C'è un'ottima posizione, a me quando ci vai di lì? È appena possibile, perché qua non mi piace questa zona, non mi piace più, capisco, mi cade l'acqua, quando mangio, di tutto eccetera. Ma dove sei tu adesso, in che zona sei, mi hai detto? Fianco storico. Sì, ma zona bassa o dove? Dove è che zona siete? Sì, a poco più su di l'edicola, capito? Posso dire, neanche a metà del corso, va. Gappa, gappa, di lì sei un po' nascosto, per quello che non arrivi tanto forte, eh? Certo, quello che fossi di là, ti avrei fatto schiettare le orecchie. Dimmi un po', che antenna sta utilizzando qua? Una tua frente. Ah sì, per quindi è già tanto che arrivi. Mario, sono d'accordo con te. La campagna prendere di qui. E l'unica cosa che c'è qua, il problema è che sul cavo deve dire il rosso, perché dopo tanti anni si fa nero a casa, qui non lo conduce più. Io massa non voglio più, dire come si sapete solo un po' a caldo, quindi scusami un po' che c'è lo stilo e blu. Sì, ma te lo sto dicendo, è un consiglio amico che ti dice. che piace il suono in quelle perché si vuole avere una multipanda dei cadetti che è molto meglio. Che faccia per dire da 3,5 a 40 per non lo so, ma come, mi sembra come si deve, tu sono di quelle caricate al centro. KK, e dove le trovi quelle? Io mi sono insomma di PC, di Storo, Fusciano, faccio chiedere. Come costruzione non è grande, ma come costruzione è tutta in ottone, cioè inossidabile, è fatta in un modo particolare, molto fatta bene, cioè eccezionale come costruzione, però è piccolina, forse per quello che non vende molto. GBC e Melina perché poi fa anche in trasmissione quei canali lì, cioè da 25 a 1.000 lo fa anche in trasmissione oltre che in ricezione. Come le vuoi tu e sulle frequenze dove vuoi tu. Ma c'è un decolo, è autocostruito. Dice 20 per parte, è fatto un cavo da 2 di diametro, cavo elettrico, è perfetto sui 45 metri, anche sui 40. Si trova bene. No, ma io dico queste antenne filari non sono molto d'accordo. Io dico avere una bella antenna, un dipolo verticale, possibilmente chiuso, dipolo ripiegato, almeno io l'avevo già fatto così, ti metti un motore e te lo riempi dove devi ricevere. E come posso me ne ho pigliato una quelle antenne che vuoi fare nelle tre ricordi, ho messo di variare il gran play ed ho fatto il dipolo centrale, poi ne ho preso altri 2. Quando abitavo in distretto andavo la faccia in diretta, la facevo il fondamento, avevo il motore del servizio, stavo la macchina poco da tirare. Gappa, no, io in FM l'avevo costruito un dipolo ripiegato, sono stato stupido, c'erano poi quelle collineari, ci ho buttato tutto, me ne ho tenuta solo una nuova, che era comprata nuova, c'erano le accordature e ce le ho buttate, adesso Mario va avanti le mani. Io di solito ne ho avuto, io ho recuperato dall'impianto dei disegnatori in calassetta, avevo solo i fuori fatti bene per esperte, di giù era. Che l'aveva da te? Ho fatto un impianto a calassetta di Ponte Radio per i disegnatori, due professori uscivano una festa loro, e stavano appena agganciati Motorola come cosa. A noi ne avete cercato più dire che così. Da una radio di Bonanna che stava in alto in cima al monte, l'avevo tutto risistemato, quei dipoli e le accoppiature tutti sistemati. C'eravamo sempre qua in officina, poi da poco, quando qualche mese fa, già mi ha detto che c'era un fatto tutto. E adesso ho tutto col cavo, le RG213, eccetera, eccetera. Ho preso, adesso mi sarebbero servito perché sto cercando di studiare un dipolo. Ripeti. Ho finito in FM, te ne sono rimasti ancora. Ce l'ho ancora? Sì, io ho cercato con la mano anch'io, devo divertirmi intanto. Io ce l'ho ancora il trasmettitore, il pilota. E il lineare che l'ho dato via, tenuto solo il pilota, era un elemento, una direttiva, avesse un tenuto nuovo a quella. Sì, a me è abbastanza inquietante, perché sentire fare il vicinato, allora, metto il CD, ormai, ma con l'MP3 ho voglia che gira. E Gianluca adesso con l'MP3 sai ore e ore di musica, io c'ho tutta l'attrezzatura, mi è rimasto, c'ho anche il codificatore, l'encoder, mi è rimasto, c'ho quello che ti fa il 75, quanto era la trazione della lucetta, quanto ci volevano, mi sembra il 75 kg, quanto era? 17 sono, basta la trattativa di fuoco, certo da dire, è per usare il fuoco. La cagatina ti dava per la riflusso e ti dava l'impressione di essere in telefonia. Lo so, io mi divertivo parecchio, io non mi piace tuttora a me. Capita che me lo compro uno, di quei tre pistoli, così per divertirmi in casa. Guarda, sono andato l'altro giorno su eBay, ci sono degli apparecchi di FM che metti le mani in testa, della Itelco, delle cose allucinanti, degli apparecchi che prima costavano milioni e milioni, adesso a 300 euro, ti danno un decodificatore, un encoder per trasmettere in telefonia della, adesso non mi ricordo il marchio, che costa una marca di soldi, 250 euro, che è predisposto anche a SLRDS. Sono divertito tantissimo, purtroppo poi alla fine abbiamo dovuto abbandonare per altri motivi, però mi ha fatto tante soddisfazioni con le FM, di tutto abbiamo fatto, ci siamo divertiti, adesso questo me lo sono tenuto il pilota con un 10 watt, è nuovo fiammante. Così mangio le telefonate in diretta di nuovo, Mariacco! Che ricordi, io usavo io, se ti ricordi anche Mario, quando mettevo la portante la c'era gente, adesso ti faccio parlare da oggi, faccio due, devi morire, ti faccio fuggire la 27, tu sì, non c'è problema, adesso aspetta un attimo, ti auguro, attaccavo il trasmettitore, e io parlo tranquillo, adesso arrangiatevi, facevo, mi fondevo le 27 a mangiare, tu non mi sono. Ancora il carico fittizio che mi avevo fatto con un barattolo con le resistenze dentro immerso nell'olio, un barattolo di vernice con un PL attaccato. Figurati. Tu non hai mai costruito carichi fittizi? No, mai costruito una roba. Mi divertivo più che altro trasmette, come ero divertito mi divertivo parecchio, siamo di tutti, salivo quando volevo sotto al tetto, pensavo a te, quando pompava. Di che era un ultimo lo scala adesso, poi un giorno avevamo fatto la Uzi, da Artista, non da Uzi, da Uzi, un trasmettitore di quelli perché ti costa 28, ti è stato in discoteca, da lì con un tifolo fatto con due canne, trasmettevamo per tanto, di cui facciamo le conte io e le altre due, ma vedremo. Allora avevamo tutti abusivi, non c'era bisogno di fare così solo niente. Però io ci devo avere ancora le concessioni lavorate in questura, infatti c'è un amico che c'ha una radio grossa qua, mi ha detto te le faccio prendere io e ci vendiamo la frequenza, io ci ho registrato la frequenza ancora. No, sta poi ancora a vendere già la frequenza, ti interessa con i soldi? Sì, lo so, infatti l'ho già detto, interessa che è tutto tuo, lo conosci la Fossiglione? Sì? Fossiglione, lo conosci? Ma si chiama lì? Padre, sto parlando. Maurizio si fa chiamare, ma si chiama Franco. Sì, vabbè, lo conosco, è il figlio, va lì, come ancora. Io ho ancora la frequenza dichiarata alla polizia, e a Cagliari. Gli ho detto, interessa, ti dico tutto tu, se riesci a recuperare qualcosa, poi mi fai sapere. Poi non so se l'abbia fatto o se si sia interessato, perché c'è da recuperare soldi. Quando si fa il gioco mi ha perché c'ho lavoro, se avessi dovuto fare per fare soldi guai. Figurati, c'è Consol, non so se lo conosci via Consol, Leonardo, quello che c'è la Radio One, 70 milioni l'hanno dato Radio, come si chiama, su 101 qui c'è, è Radio DJ proprio, no scusa, Radio, no Radio DJ 101, sì. Ma poi guarda che il primo giorno che fa buono era però fa bel tempo che sul cielo scende, facciamo tutto quel lavoro di tu e anche il mio. Vediamo che facciamo grande la città laggiù, me la metto qui, se cosa qui ce la saliamo a oggi. Per quello non c'è problema. Allora, per quello non c'è problema, no, perché voglio così, ogni tanto dedicarmi, non solo a entrare in radio così, ma cioè, ci sono quei giorni che non hai niente da dire, e allora ti metti a fare l'ascoltone, 40 metri, 80 metri. Oh Mario, dimmi, vabbè. Ma tu non ce l'hai un ricevitore? Non ce l'ho un ricevitore, Io ho la radio, questa è solo la radio. Ah, vabbè, ma sono ancora frequenze lì, puoi ascoltare però. Io volendo posso ascoltare tante frequenze. Sì, no, ma dico, con quell'apparato lì puoi arrivare fino a una certa frequenza, se vuoi ascoltare più in alto non ce la fai. Sono la frequenza dell'arrivato che si ascolta, vabbè, fino a Dio. Sì, ma che sto dicendo quello, noi radioamatori possono arrivare anche a 144. Ma è la frequenza radioamatori, diciamo. Sì, ma lui con quell'apparato che c'ha lui arriva a 30 mega, si conta arriva. E vabbè, diciamo su cui un altro ricevitore ci comprerà per ascoltare le VHS e le UHS. Con le frequenze che si ascoltano sono da 0 a 30. Gaffa. Gli 80 metri che sono mandano gli amatoriali non li possiamo ascoltare qua. Perché lo puoi ascoltare? Puoi ascoltare 40 metri, 80 metri, 20 metri, 10 metri. Tutte le frequenze abilitate agli amatori si possono ascoltare. Lasci vedere che le può ascoltare. Gaffa. No, perché secondo come va a me in primavera metto qualche dipolo su, giusto per ascoltare qualche cosettina così, non è che sto sempre alla radio, specialmente al tempo buono me ne vado al mare, non so, ho attaccato al marachino, però ci sono quei giorni che non sai che cosa dire, magari sei anche un po' svogliato e fai un po' di ascolto così, tanto per cambiare. Vabbè, certo. Le bande a gente sono 9. 9 bande che abbiamo noi da Riamatori. E poi ci sono altre due bande che sono le VHS e le UHS. Non c'è altro da ascoltare, vabbè. Quello te lo sento. Vediamo, ti faccio una fotocopia. O te le scrivo le bande dove si possono ascoltare. Così le domande devono essere secche e precise, in modo che nessuno fraintenda le cose, perché sembra che tutti avete ascoltato gli amatori e sembra più le avete ascoltare le cose che non avete ascoltato. Ricordami ancora, mi hai detto l'altro giorno tu, le bande laterali si possono utilizzare, è vero? Dall'1 al 40. Cioè, consentito dalla legge, non lo sapevo quello. Negli apparati omologati che hanno le bande laterali le puoi usare dal canale 1 al canale 40. Ma gaffa, perché tutti quei canali oltre il 40 sono fuori legge, chi ce li ha? Tutti i canali oltre il 40 sono fuori legge, tutti. Le frequenze CB sono dal canale 1 al canale 40 e basta. Ma gaffa, non c'è problema se sei in AM o in FM. Nessun problema di trasmissione, sempre dal canale 1 al canale 40, qualsiasi frequenza tu ti trovi, cioè emissione di frequenza, quindi AM, FM, LCD e USB, sempre dal canale 1 al canale 40, sugli apparati omologati, se tu usi un apparato che non è omologato con le bande laterali si fuori legge. Gaffa. E stavo dicendo, con gli apparati che c'hai tu, quelli HF, come fai tu a regolare con i... Io ho quello dei flari per fare la banda laterale, come fai tu? Cambi la frequenza? C'è la frequenza continua? Vabbè, è difficile spiegarti, io sono un radioamatore, quindi utilizzo gli HF per fare attività amatoriale, perciò non parlo 27 dell'HF, parlo in banda amatoriale, quindi 40 metri, 80 metri, non uso il driver perché il driver in questo orario non ce n'è, c'è il RIT, capito? C'è il RIT con gli spostamenti da 0 a 100, meno, da 100 a 0, meno. pappagappa, però è molto più sbrigativo che usare il clarife. Beh certo, lì si indica più uno, più due, più tre, fino a quando arriva a clarificare il bene. Quando invece non è negativo che sei fuori, allora si va meno. Questo lo devi fare sempre manualmente, non esiste la possibilità di farlo automaticamente, cioè non un sistema digitale che te lo faccia da solo. Fino adesso a me quando mi scotte in HS, in banda laterale, cioè gli HS, noi l'allenatore usiamo solo in banda laterale, le ferme lo usiamo solo in VHS e non HS. Gappa, riprendi Mario. Gappa, bisogna segnare bene tutte le frequenze, perché potresti sbagliare per dire è incappata male, perché purtroppo per noi è un gran casino, capito? Perché molte volte andiamo a cercare, a fare, e magari capitiamo nei posti sbagliati, e non dovrebbe succedere, perché se per puro caso ti dovesse bussare la porta e ci trovi l'escoradio con la polizia postale, ti fa un culo a tare di grillo che manco te lo immagini. Adesso ci sono denunce penali, non è più come prima. Denunce? A dove denuncia? C'è dai 3-6 mesi di galera e dai 2.000 ai 5.000 euro di multa, subito di prepotenza, poi lo deciderà il processo se metterti dentro o no. Gappa, il nostro adesso è cambiato tutto, è tutta un'altra musica. Con i controlli di antiterrorismo è ancora aperto. Immaginati, a me quando ho fatto gli esami, gli ultimi esami che ho fatto, ci hanno messo 3 mesi per gli accertamenti, 3 mesi, ti lasciano in licenza provvisoria e poi ti mandano la definitiva, 3 mesi, capito? Quei 3 mesi non so perché l'ufficio è pieno di carta, perché devono fare le indagini su di te, capito? Se tu poco poco sei la polinaterale sporca, la licenza te la scordi, perché non ti dimenticare che la licenza ce l'abbiamo noi da diamatori, è una licenza di fatto, capito? È una licenza di fatto. Ma vengono a controllare, ti è capitato che vengano, ti chiedono che tipi di apparati utilizzi o mai? A me non me ne va anche proprio niente, perché lo posso utilizzare dalla A alla Z e posso detenere dalla A alla Z, compreso anche l'amplificatore, quindi hanno poco da venire. Sono venuti quando, tanti anni fa, quando ero già l'animatore, e hanno controllato la licenza e basta, licenza, patente, se era valida, non valida, se diversamente era in regola, mi hanno controllato il log di stazione, capito? Perché devo, bisogna segnare tutto quello che fai e quello che non fai, e basta. Grazie, arrivederci e buonasera. E appunto dico, questi controlli li fanno loro, perché tu c'hai un patentino, devono verificare che tu effettivamente stai operando, che non sei un prestanome o qualcosa del genere. Ma certo che li fanno anche incrociati, però una volta che li fanno e sei a posto, non è che stanno lì senza rompere le scatole o a controllare, lo fanno una volta e basta, poi si accertano via computer loro qual è la tua operatività, capito? Io quando sono qua in radio mi vede tutta l'Italia che ci sono, perché il mio operativo appare anche al computer. Tra l'altro poi io sono iscritto a corredetta.com, quindi sono un colloquio internazionale, sempre sul computer, perciò quando tu vuoi sapere chi sono, clicchi il mio operativo e ti dà tutto quello che ti deve dare su di me, capito? Questo per quanto riguarda noi, per quanto riguarda i CB è diverso. I CB non hanno nessun accesso, nessun diritto a niente, devono solo essere in regola con la concessione, che non si chiama licenza, quella dei CB si chiama concessione, la nota non la licenza. Quindi la concessione dove deve essere a posto di carta e buco e usare l'apparecchio omologato. Quindi il baracchino omologato, senza microfono da tavolo, fisso o sbaglio? No, con l'apparato fisso siamo onorato, con l'apparato base siamo onorato, se non omologato non si può ottenere neanche l'apparato base. Gli apparati base omologati ci sono solo quelli di vecchia generazione. Il Galaxy non è omologato, il Saturn Echo non è omologato e così via. L'Inuit che c'ho io è omologato perché 23 canali normale, quello che c'è tu è omologato perché è 40 canali normale senza con le bande laterali, quindi non ha banda C, banda B, banda E, banda S, e quello è un 40 canali base con le bande laterali di vecchia generazione, pace 81-93, quindi omologato di vecchia generazione come il mio, capisci? Quindi lo puoi tenere. Grazie radio, caro Roberto, non si possono ottenere nel modo più assoluto, a meno che non abbi un titolo di carta come c'ha Claudio Torriero e compagni. Allora ti puoi fare quello che ti piace, come ho fatto io, nessuno può dirti il contrario. Sono tutto quello che tu hai in più di quello che la concessione prevede, sarà possibile sia penale che tutto il resto. KK, e di antenne non avete limiti voi, Claudio? No, io l'antenna non ho limiti, mentre tu invece limite ce l'hai, capito? Tu ricordati che la Mantova, le antenne 5 ottavi nella 27 non si possono ottenere. Hanno sempre chiuso l'occhio, non hanno mai rotto le scarpe a nessuno, ma la legge dice che l'antenna per la 27 deve essere un quarto d'onda, quindi Grand Prix, mini Grand Prix e similari. L'antenna 5 ottavi più lunga di 2,75 metri non si può tenere. Questo è quello che dice la legge. Poi hanno sempre lasciato perdere, perché hanno sempre lasciato perdere, però il giorno che dovessero diciamo rifare qualche modifica sulla legge e dicono che le antenne 5 ottavi devono essere tolte dalla circolazione, chi vuole parlare in 27 deve usare un'antenna un quarto d'onda non più lunga di 2,75 metri, come prevede la legge. Capagappa, però tu puoi dire sempre, io sto parlando di ipotesi per assurdo, che tu la stai utilizzando solo in ricezione. Non esiste detenzione, detenere, non la puoi detenere perché non sei in regola con la documentazione, capite? Io invece posso dire che l'antenna 5 ottavi la tengo perché la uso in 10 metri e quindi posso detenerla perché sono possessore di licenza amatoriale. Capagappa. Sono tante cose che voi non sapete. Quando io vi dico che a volte bisogna fare questioni serie, bisogna parlare di cose serie, e se qualcuno è documentato, non dico io, ci possono essere anche altre persone documentate, ed è bello fare un questione di aggiornamento, domanda, risposta, e di tante cose, invece di Sabo, di Giovanni Dorendi, ti crepo, ti passo, ti gonfio, ti mollo e ti lascio. Pienamente d'accordo, infatti io sto sempre a chiedere se inutili e ad ascoltare molte volte per avere nuove informazioni. Claudio, a volte ci piace anche scherzare, non puoi sempre parlare di cose serie, si parla di cose serie, si parla di cose belle, si scherza, si ciacuteggia. Bisogna essere così in una radio, ogni tanto sì, parlare di radio, parlare di antenne, parlare di tante cose, perché è piacevole anche cambiare discorsi, è come quello che entra e vorrebbe parlare sempre di politica o sempre di cose, non, così non va bene, cioè un giorno si parla di politica, un giorno si parla di cucina, un giorno si parla di lavoro, un giorno si parla di antenne e così via, claro, non è che dobbiamo stare sempre, ogni tanto svegliati a buffonare, a rugrima, a rubare, a rubare, ma stiamo scherzando, non è che siamo quelli di sagosa là, non è che uno se la deve pigliare o che ancora consecutivamente, però a volte esageriamo, dico non tutti assieme, anche io, a volte esageriamo, capito? A volte bisogna, poi lo fiato è bello quando dura poco, quando c'è troppo casino io ormai non ci metto più in mezzo, perché poi succede che, però dico, ci sono persone abbastanza aggiornate, persone che non aggiornate, che hanno bisogno di capire, di sapere. Roberto è uno di questi, perché non vuole correre a cose che non vanno bene, quindi dico io, se abbiamo la possibilità una volta, non dico sempre, ma una volta di fare qualche questione seria, facciamo, invece di un'agire agiremo dell'aborto, quindi io non sto tranquillo e sereno dalla mia parte, non è che non me ne viene a me sonno, e ne ho tanto da ascoltare, da fare, io devo sapere, quindi io sono piacere, vi sto ascoltando, c'ho la TV qua piccolina, ho fatto i collegamenti oggi, quindi sto guardando la TV, sto ascoltando a voi, sto ascoltando altre miei questioni, ci sono in 80 metri, e ogni sera ci sono, sono dei questioni veramente di tutto e di più, dove si ascolta gente preparatissima ad alto livello, parla di tante cose che possono essere interessanti a tutti, a me compreso, e quindi già ne ho da fare. Però siamo già l'altra volta, questo discorso lo dobbiamo approfondire e poi non l'abbiamo approfondito, c'è qualcuno che ne sa, però le sa sbagliate le cose. Allora ogni tanto è meglio farci un po' di cultura, no? E dire, ma effettivamente Claudio è così o non è così? Io se è così ti rispondo che è giusto, se non è così come il mio modo di fare contraddisco a tutti, perché quando una cosa non è giusta e io ritengo che sia sbagliata, dico è sbagliata, capisci? Quindi la parte del ricevitore, la parte dell'SWL hanno delle cose ben precise da svolgere e quelle devono essere fatte. Chiunque faccia qualcosa di diverso non è in regola, né di detenzione né di ascolto. Questo è il principio generale per tutti. Poi c'è quello che se ne sbatte altamente le palle e dice a me della legge, non me ne frega niente, faccio quello che mi piace a casa mia e mi assumo le mie responsabilità. E lì non c'è nessun discorso da aggiungere. Capito Roberto? Però c'è da aggiungere che se lo fai, lo devi fare in silenzio, senza fare domande e senza chiedere niente a nessuno. Tu ascolti, sei zitto, fai per i fatti tuoi e non rompi l'anima a nessuno. Al momento in cui ti prendono e ti fisicano, allora sono problemi tuoi. Nessuno sa quello che tu stai facendo. Caffa, d'accordo, infatti piano piano facendo ascolto ti fai fare questa esperienza. E io vabbè, ci vado a imparare tante cose anch'io, immaginati tu che stai iniziando, io ci sono 30 anni, forse anche di più, è dal 14 anni che sono allenatore, quindi ancora ne ho tanto da imparare di cose, perciò io sono allenatore, fai da te, a me poco me ne frega quello che fanno gli altri, capito? A me se gli altri partecipano ai contest, vanno a fare gli ex, c'hanno quello, c'hanno quello, a me non me ne frega proprio un accidente. Fate vero che a me mi chiamano, dai amatore fai da te, io faccio da me, non devo niente a nessuno e nessuno mi deve dire quello che devo fare, capito? A me non piacciono gli ex, mi piace avere tutte le radio possibili e immaginarie, però anche se sono lì che non le uso non me ne frega niente. Qualcuno mi dice, ma c'hai tante radio, tante antenne, non ti abbiamo mai sentito in 40, 80, quello lo vedo io quando devo parlare in 40, 80. A me la tutti non da mai quello che dicono gli altri, capito? Io sono una sentita totale a tutte le parti. Quando mi va di parlare, schiaccio il microfono e parlo, nessuno mi può dire niente. Quando mi va, come sto zitto qui, sto zitto anche lì. Non è perché sono allenatore, devo stare lì tutto il giorno con le cuffie, io, cercando, vuoi sei, fai bene, ma lo chiami la puttana a me. Io parlo l'italiano, se c'è qualcuno che mi risponde in italiano, gappa, gappa. No, io tempo addietro, siccome un po' di francese non capisco, ho fatto qualche, diciamo così, qualche passaggio con qualche francese, niente. In spagnolo, per esempio, capisco tante parole, però non riesco a esprimermi, e così che qualche volta ascolto il poesia degli altri e boh, cioè non è che mi interessa, capito? Molte volte però è la curiosità, capito, che ti attira. E infatti mi stavo dicendo proprio Antonello che come fa un giorno un bel tempo di mettermi qualche riposo giusto per ascoltare le bande radioamatoriali, quelle che riesco a sentire, quelle che non riesco a sentire, pazienza. Ma è così. È giusto che chi ha la possibilità di ascoltare deve andare ad ascoltare, perché è così. Nell'ascoltare ci si prepara ad una certa cultura che può essere importante per l'avvenire. Questo è quello che io penso, poi se sto sbagliando non lo so, perché io ho imparato a fare radio ascoltando gli altri, sapere come devo comportare, che cosa devo dire, come ci si parla, come ci si comporta in una frequenza, non dico in un canale, la banda cittadina è fatta di canali, non è fatta di frequenze, potetelo fare, capite? La banda cittadina è fatta di canali, dal canale 1 al canale 40, queste frequenze non esistono, le frequenze esistono nella parte dell'arrivatore, dove noi canali non ne abbiamo, abbiamo le frequenze assegnate allo Stato e quelle dobbiamo usare, quelle sono frequenze. Noi non abbiamo canali, i canali si usa qua, dal numero canale 40, capite? Quindi dove si ascolta una frequenza amatoriale ci va, si sta lì, si ascolta e si imparano tantissime cose, perché ci sono tante frequenze dove tanti allenatori anziani, soprattutto in 80 metri, dove c'è una frequenza salotto, così chiamata da noi, io sto ore lì ad ascoltare, che si parla di radio, di cosa, di come è fatta una radio, di come si costruisce un'antenna, quale antenna al momento può avere validità sull'altra, quale radio in questo momento sta diciamo prendendo il top rispetto a tutte le altre, nel senso che si parla di comparazione di radio, quindi una radio sia meglio dell'altra, io sto usando questa, però ci avevo anche quella, la differenza tra quella e questa è questo, quella c'ha questo problema, è nata così, perché, come, capito? Quelli sono discorsi che a me piace ascoltare. Se ci fosse qualcuno qua che ogni tanto iniziasse un discorso del genere, si potrebbe anche chiacchierare diversamente, solo che qua i baracchini sono baracchini, le radio sono radio, e quindi non è che io mi posso mettere a fare un discorso con Roberto che c'ha un baracchino, io devo parlare del suo baracchino, sì, io posso fare il suo baracchino, se lo conosco però ci parlo del suo baracchino, se non lo conosco devo stare zitto anche io, non è che posso fare un guasciano, devo fare il medico di turno senza dire cose utili, ma dire solo affrontate. Cioè, la radio si parla di cose serie se uno è capace di farlo. Se non è capace di farlo, si fa di giorno, già è chiaro, ragazzi, ma chiaro. No, c'è perfettamente ragione, è chiaro. Però non è detto che uno fare dei discorsi belli, dei bei QSO, non è detto che bisogna parlare solamente di radio, di frequenze, di quello e quell'altro, ci sono tante belle cose di poter parlare. Allora, si può parlare del mondo del lavoro, si può parlare della medicina, si può parlare di tante cose, pur che siano discorsi validi. Se poi non sono discorsi validi, torniamo al tuo, sono solo Giambotti, boh. cominciate le susse. Ciao Bobo, buonanotte e tutte le migliori. Ciao ciao, riprendi Claudio. Ciao Pagappa. Mario, se tu ti ricordi bene, io non so in che anno tu sei entrato in radio, ma io ero ragazzino e per poter uscire e aggregarmi alla combriccola mia madre aveva dato il consenso, tra l'altro ha dato il consenso perché era venuto a prendermi mio cugino Toccai Ernesto, che è un cugino, c'è un parente, quindi praticamente mia madre aveva dato il consenso. La mia prima concessione è che allora ci voleva l'autorizzazione, io non avevo neanche 14 anni, io ce l'ho sempre conservata quella concessione, capito? Dove ci voleva il consenso dei genitori per poter far sì che ti dessero quel benedetto pezzo di carta. Quindi ho vecchi ricordi della radio, ecco perché mi piace fare radio. E mi ricordo che appunto quando avevo 14 anni, tra Porto Prove, Sassari, Alghero, Bancari, cosa ti posso dire, Sorso, Sennori, qualcuno c'era anche da Tintino, si faceva la tombola, Mario, se tu ti ricordi. La stazione più forte, che era quella praticamente che aveva più raggio allora, mi ricordo una volta l'abbiamo fatta a casa di Vincenzo, la Bonanima e Delfino Bianco, e una volta l'abbiamo fatta a casa di Primo La Rossa. Quindi questi sono i ricordi che mi sono rimasti impressi. Si stava tutta la notte con praticamente con una ruota di persone che all'incirca tra Sassari, Porto Torres, Sorso, Sennori, Alghero e così via, hanno fatto un centinaio di persone. Quindi voi immaginatevi quelli che praticamente eravamo di commissione, c'era quello che dava la radio e dava i numeri, quell'altro che praticamente agitava il sacchetto numeri, quell'altro lasciava la cartella, quindi eravamo in cinque in una sala operativa, chiamiamola sala operativa, che davamo questi numeri a queste 100 persone, seguiti alla grande da tutte gli aiuti che c'erano, e ci faceva la tombola e ci divertivamo, capito? E alla fine della tombola, quando si faceva la tombola, chi aveva vinto si andava all'una di notte, alle due di notte, alle tre del mattino a portare il regalo. Ed era veramente, ma vi giuro, veramente una cosa allucinante. Chi si ricorda di questo sa che è esistito. Ed è esistito perché? Perché a quel tempo c'erano persone validissime, persone grandi, persone che la radio la facevano funzionare in una certa maniera. E dico, noi non siamo capaci a organizzare niente. Abbiamo organizzato la caccia al tesoro, con le radio, con le macchine, tutti, capito, sempre la sala operativa dove dava le disposizioni, e noi dovevamo girare 20, 30, 40 macchine dentro Porto Torres alla caccia del tesoro, dalla sera, cioè dall'imbrunire, dalle 7 alle 8 fino alla mattina, sempre in giro a fare, a cercare, ma divertimento, vabbè, divertimento che era una cosa molto molto bella. Oggi niente, nulla, non si riesce a organizzare una festicciola tra CB per vederci tutti in faccia, per farci le chiacchiere, le risate, non si riesce a organizzare una tombola, non si riesce a organizzare una caccia al tesoro, una manifestazione sportiva da poterci un po' così vagare una domenica, niente, zero sotto zero. Ma qui a Sassari proprio tutti questi ultimi anni non si è stato mai fatto niente. Io mi ricordo il primo tempo che mi sono fatto la concessione, che allora si usciva, io Angelo Lazzo e qualche altro. L'unica cosa che ho visto giù a Porto Torres che facevano la caccia al tesoro o la caccia alla e ti posso dire che è stato un grandissimo divertimento. Io ho ancora il filmino, anzi il filmino che abbiamo girato ce l'ha Nino Torre Bravo, dove mi doveva sembrare una coppia, non me l'ha mai data, e io ero sempre ragazzo, abitavo ancora a Porto Torres, immaginati tu, quindi perciò ci sono state fatte tantissime cose a Porto Torres, hai detto bene, a Porto Torres, perché sono stato anche vicepresidente della sezione, quando presidente era Francesco TM e segretario era Fabio Angelo, capito? E avevamo la sede prima la Torre Aragonese, poi la Torre Aragonese è andata al CISOM e noi ci siamo spostati all'ex deposito della Shell, dove io personalmente, siccome lavoravo con i suoceri e avevamo i voti veramente edilizia, mi sono preso carico di fare bene tutto il lavoro che c'era da fare, soppalchi, soppalchetti, e attrezzare bene tutta la sala giochi e mettere addirittura a disposizione anche una radio, perché io ne avevo sempre tante di radio, rispetto agli altri ne avevo sempre tante, quindi avevo messo a disposizione una radio, che tra l'altro era una bella radio perché mi pare che era a quei tempi, non mi ricordo se era una Faietta KB23, o se addirittura era un pace, adesso non me lo ricordo più, comunque era una bella radio perché riceveva e trasmetteva bene. Poi avevamo messo dei soldi tutti assieme, perché si funzionava così, avevamo comprato un ricevitore della Trio, quindi mi sto parlando di un ricevitore HF, che tra l'altro non era neanche a sintonia continua, ma era a bande spostate, giusto per farci un po' di cultura e ascoltare qualcosa di diverso. Organizzavamo feste, organizzavamo manifestazioni sportive, ci chiamavano sempre a Porto Torres, quando c'era il gruppo ciclistico, quando c'erano processioni, manifestazioni, noi eravamo sempre in prima linea, sempre. E questi ti sto parlando di anni che tu forse hai conosciuto, capito? Perciò dico, oggi che stiamo cercando di mettere un po' di sesso questa, o per meglio dire, cercare di farla rifunzionare come funzionava prima, siamo 10 persone, siamo sempre lì, però non organizziamo niente. Si potrebbe coinvolgere anche un po' le altre persone che parlano poco, che si sentono poco, che non magari hanno la radio, sì, ma non sono attirati dal nulla, da niente. Se invece qualcosa si riuscirebbe a fare, cercare di coinvolgere quelle persone che ci sono, perché ci sono, che però non parlano ma ci ascoltano, e coinvolgerle a partecipare a un qualcosa, a fare un qualcosa, io sono convinto che magari si apre quello spiraglio chiuso che c'è di tutti gli ascoltoni che hanno voglia veramente di rivedere qualcosa di ricreativo nella frequenza. Capito, nella 27. Adesso l'anno esatto io non me lo ricordo, ti direi una bugia se ti dicessi una data così, però magari qualcuno se la potrebbe ricordare, perché io giustamente con tutti i mal di testa che ho, la verità, ricordare le date non è che me ne ricordi, però c'è stato un anno che io, Angelo Delfino, Pomponio, Gianni Bravo 2, poi che altro c'è, insomma eravamo, non voglio esagerare, un 25 persone e ci avevamo dato l'appuntamento lì al bar vicino alle vele, non so se lo sai dove sono le vele, il bar che c'è appena più giù sulla destra, e ci siamo trovati lì, ci abbiamo pigliato un paio di calci di birra per bere tra di noi, un bicchiere di birra, non è che abbiamo bevuto chissà che cosa, eravamo in tanti e stavamo cercando di proporre di fare una sala o una sede, come la vuoi chiamare, qui a Sassari, e io stavo interessando delle persone per darci un locale nel centri sanitari, ci hanno fatto il campo sportivo che si vanno a giocare a pallone. E io stavo proponendo se volevano, io mi potevo interessare per avere il locale. E poi ce l'avevamo gestito noi, avevamo messo sul dipoli, avevamo messo l'antenna, avevamo messo qualche radio. E prima tutti quanti sì. Dopo tu a nessuno hai visto che non ci ricla, altrettanto ne abbiamo visto noi. Lo so Mario, perché sono delle iniziative molto molto interessanti, che però lasciate così al quieto vivere, nel senso che se tu non vai a rompere il scatto alle persone che devono darti quella mano che a te interessa, le persone non vengono a cercarti, capito? Chi non era tutti nuda. Quindi devi essere tu a proporre e a gestire bene la cosa, perché tu ogni giorno devi andare e dire oh ma quella cosa, fino a quando quello si tu fece, mamma mia, va bene, dai, allora cerco di portare, per dire, in consiglio comunale questa nuova iniziativa per poter far sì che nasca a Sassari un circolo ricreativo dedicato ai CB. Capito? E sono sicuro che la cosa si poteva fare tranquillamente, si può fare anche adesso, non è detto che è una proposta sbagliata, si può fare, perché la sera, anziché stare tutti qui a fare bordello o a cambiarci due chiacchiere via radio, che si può fare una volta ogni tanto, c'è una sera, perfetto, allora io stasera me ne vado alla cancella, così vedo Mario, così vedo Roberto, così vedo quello, mi faccio la partita a biliardino, magari c'è il frigo, anziché andare a spendere 4 al bar, abbiamo messo un euro a testa e abbiamo lì due bottiglie di birra, due bottiglie di aranciata e due bottiglie di Coca-Cola, ce le beviamo tutte assieme e ci facciamo due risate, una partita a carte, cosa vuol dire? Un circolo ricreativo, denominato Associazione CB o Club CB Sassari, basta, non è che ci vogliamo, ci vuole solo l'iniziativa di poterci vedere tutti e dire che ora che anche Sassari, come tutte le città che poi non sono capoluoghi di provincia, come Porto Torres, alla sede di CB, Alghero ce l'ha, Perfugas, che Perfugas ce l'ha, Chiaramonti ce l'ha, che sono 10 gatti, quindi dico, anche Sassari ora che a parte le sezioni ARI che ci sono in tutte le città, non sempre, perché c'è Porto Torres, Alghero e Sassari come provincia, poi vabbè c'è Urbi eccetera, ma quella è un'altra cosa, anche i CB devono avere una sede per poter discutere, vedersi, chiacchierare, io so questo, cosa ne pensi, ho questo problema alla radio, discutere di persona, creare una sede in modo che anziché stare a voce al baracchino a scambiarci le idee, che possiamo anche scambiarci in verticale, avere una sede, che sono d'accordo, io non ho problemi, posso proporlo quando volete. Non ho nessun problema, io faccio la mia attività amatoriale da una parte, dove sono iscritto alla sezione ARI di Alghero, e posso fare il CB dall'altra parte, dove posso tranquillamente proporre questa iniziativa che può essere molto importante per tutti, per chi vuole aderire, la porta è aperta a tutti, capite? La porta è aperta a tutti, l'importante è che abbiano il baracchino, la porta è chiusa per chi non ha il baracchino, perché la sede deve essere esclusivamente dei CB di Sassari, solo la città di Sassari, non che vengano a iscriversi persone di Sorso, di Senno, di quella, no, non ce ne frega niente, chi vuole fare l'iniziativa la fa per conto suo, noi siamo i CB di Sassari dobbiamo essere, punto e basta, che ne pensi Robert? Cappa, se non è d'accordo, purtroppo non sono tutti della zona così qua, io sto iniziando, non c'è un capitolo, ma tu c'hai molta più esperienza, hai detto bene, purtroppo io mi occupo di altre cose e non so benissimo cosa vuol dire organizzare. Ma vabbè, non ci vuole niente né organizzare, cioè se siamo anche inizialmente, anche se siamo 10 persone, che queste 10 persone si muovono nella zona giusta, cioè per dire rompere la scatola al comune per darti un locale che è in disuso, come può essere giustamente 10 euro a testa. Ma inizia già a andare bene. Cioè 10 euro che cosa compri? Non compri niente. Così che metti 10 euro a testa e inizi a creare la sede per dire, per comprare un'antenna da poter piazzare lì e fare qualche dipolo per le varie bande radioamatoriali. E giustamente chi ha le SVL e sente qualcosa che magari c'è un discorso che gli piace si può mettere lì e ascoltarselo tranquillamente senza rotture di scatole né niente, capite? Si possono scambiare due parole tra di noi e magari una sera organizzare una seminata, diciamo così, là. E si possono fare tante cose, una caccia al tesoro, oppure una caccia alla portante, si potrebbero fare diversi giochi. Tanto vai al circolo e vai solamente per bene. Sì, trovi qualche amico, però vai solamente per bene. Ho poi fatto una partita a carte, però la stessa cosa si potrebbe fare creando un circolo di CB che non è a scopo di lucro e ci fa da sede anche, ci fa da circolo e da sede, che ti metti lì, c'è il frigorifero. Questa settimana abbiamo pigliato 10 casse di birra per dire, 3 di arancia, 2 di Coca-Cola, le metti lì nel frigo quando uno si trova con un amico, può essere chiunque sia. Vai al frigorifero, metti 1 euro e pigli la bottiglia della birra e te la bevi, senza nessun problema, capito? Si potrebbe fare, solamente che qui a Sassari non ho mai visto gente che era predisposta a farlo, perché anziché stare chiusi in casa, ci troviamo per dire un'ora o un'ora e mezza la sera, quando uno esce dal lavoro, va lì, si fa due chiacchiere, due cose, poi magari va a casa, cena, la sera per dire si trova un pochettino così, se ne va al circolo fino alle 11, rimane lì tranquillo e poi se ne va a casa. Ma hai detto bene, si potrebbe fare, ma c'è poca iniziativa tra di noi, ma molto molto poca. C'è poca iniziativa e molta invidia. Queste sono le mie frasi che io continuerò sempre a dire. Non siamo coordinati tra di noi, capito? Abbiamo un po' invidia uno con l'altro, siamo un po' gelosi uno con l'altro, quindi per creare un circolo ricreativo bisogna essere tutti coerenti e avere tutti capacità di fare. Perché se uno aspetta l'altro non c'è iniziativa per nessuno, capito? Le antenne si costruiscono, Mario, non si comprano, si costruiscono. Il CB deve essere in grado di costruirsi un'antenna, perché l'esperienza ce l'ha per poter sapere che un'antenna, un dipolo per la 27, se stiamo parlando della banda 11 metri, deve essere quella la misura. Quindi si può costruire un verticale, si può costruire un dipolo, metterlo lì e poi pian pianino chi ha una radio in più la prende e la mette senza spendere soldi a comprare niente. Nella collettività si cerca di risparmiare il più possibile, di creare cose che naturalmente sono a disposizione di tutti, perché io ho sempre fatto così, anche nel mio piccolo, da quando sono arrivato, e quando è servita un'antenna io ce l'avevo, pronti, mettiamola lì sul ponte, oppure serve una radio, serve un alimentatore, ce l'ho io ne ho di più, allora via, mettiamolo sul ponte. E così dobbiamo essere in una sezione ricreativa di questo genere. Chi ha qualcosa in più la mette a disposizione della collettività, non si deve comprare assolutamente niente, perché quando lo compra poi succede che quelli mio non toccare qui e là, no, questo è della collettività, questo è di tutti e mio personale, però io lo sto mettendo a disposizione di tutti, perché tutti devono usare la radio nella sezione. Questo è il riferimento. Se poi le capacità mie, le capacità di qualcun altro sono per costruire un'antenna, si prende e si costruisce. Claudio è in possesso di 10 tubi d'alluminio, capita, si può fare questa antenna, ok. Roberto ha 50 metri di cavo, perfetto, possiamo fare due dipoli, ecco, capito? Due PL c'è tu, due PL c'ho io, un microfono rotto c'è tu, uno ne nuovo io, da due ce ne fanno uno, e si cerca di andare avanti in quella maniera. Spendere quattrini personali non esiste, non esiste, perché poi c'è quello che dice io ho messo più di te, quello è mio. Quindi qua non si deve speculare niente da nessuno e nessuno deve speculare niente. Qui si tratta di avere capacità e buona volontà, rimboccarsi le maniche e creare un qualcosa che tutti possono avere ed usare. Questo è il mio punto di vista. Poi bisogna sentire anche la campana degli altri, caro Mario. Anche le campane degli altri vanno sentite, perché molta gente può dire sì, a me va bene, però la radio dei quando sei pronto me lo dì, io vengo e apro la porta. No, se siamo 30 persone, 30 persone devono collaborare al pavimento e all'intonaco, come dice Muratori, capito? Perché se tu arrivi che c'è già il pavimento pulito, allora non funziona più. Tutti devono rimboccarsi le maniche, tutti devono lavorare e tutti devono partecipare a quello che è l'inizio di questa nuova avventura e nuova attività. Così va, Roberto. K, ma c'è la radio o un circolo che ci dia stasera di cessato? A me non me l'ha detto così, è vero? No, non ce n'è mai stato. Lo stavamo cercando di costruire noi, che poi io avevo, in quel periodo lì, avevo tante idee, perché tu vedi bene, Sassari adesso è diventato un coso di ambulanze che prima non c'erano, ce n'erano pochissime. Io addirittura ne avevo parlato anche con Antonello, ma ti sto parlando di tanti anni fa, non è che ti sto parlando di ieri, allora c'era ancora Pier Andrea, la Palpa, poi c'era Andrea Manicomio, c'erano tante persone che volevano partecipare, che però tutti quanti si sono dimostrati un pochettino codardi, cioè avevano paura di mettere quei 10 euro, ma quei 10 euro non è che servissero a me, oppure che servissero a Claudio, oppure che servissero a Roberto, no, servivano per poter pagare la luce, l'acqua che si utilizzava e tutte queste quelle belle cose che giustamente in una sede devi avere. Non è che vai in gabinetto e poi non butti l'acqua per non pagarla, cioè ambulanze ce le facciamo dare la pilla, che ne ha due, che sono abbandonate perché loro non le stanno più facendo. Io ho detto, ma a me è benissimo, allora cerchiamo di farci questa serie. Quando si è parlato di mettere 10.000 lire, perché allora c'erano le lire, tutti quanti bimbombavano, poi sono spariti tutti quanti. Cioè, 10.000 lire, che cosa? Si può fare giù gelato, e non va di 10.000 franchi. Ma il motorotto che l'attacca è un problema, capito? È sempre stato così. E quindi è meglio non toccarla mai la tacca. Si parlerà di questo, si discuterà, si cercherà di, con conoscenze e non di cercare di avere una sede dove le spese ce le accaparrerà il comune, e noi senza mettere neanche una lira cercheremo di creare un qualcosa che possa essere utile a noi stessi, tutto lì. Comunque, questo discorso se ne può parlare tranquillamente, con calma, non è adesso il momento di parlarne, perché siamo in tre ed è l'una meno 25. Ok, quindi io vi saluto, piacere di avervi risentito, vi stavo ascoltando, sono intervenuto così per fare una battuta e poi abbiamo continuato. Ma ho fatto piacere comunque che ci hai parlato di questo, perché un'iniziativa può essere se la mandiamo avanti, altrimenti se non la mandiamo avanti possono essere solo parole di QSO per passare la serata. Quindi io vi saluto, saluto gli SWP che sono ascolto, tutti coloro che sono ascolto, e passo in QRT e vado a nanna. Ci sentiamo domani, Mario. Ciao anche a te, Roberto. Niente. Riprendi, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao, buonanotte, buon tutto e buona giornata per domani. Poi, il resto, se sono cose potranno anche chiudere, bisogna discuterle con gli amici. È vero. Non costa niente e non basta che siamo un pochettino organizzati, è tutto qua. Poi vedremo cosa ne esce fuori. Vabbè, lo proseguo sugli loro. Ciao ciao, buonanotte. Riprendi, vabbè, che intanto anche io chiudo e me ne vado a nonna, che domani si lavora. Ciao Claudio, buonanotte, alle prossime. Chiudo anche io che sono quasi addormentato. Ciao Mario, anche a te alle prossime. Buonanotte a tutti.